Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, 21:14, 14 minuti di ritardo, ma insomma, quando sono gli artisti sono così bravi ci vuole anche un po' di tempo per sistemare gli strumenti. Poi questa sera sarà blues, assolutamente blues e ancora blues qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che anche questa sera, giovedì 3 maggio 2012, sarà in diretta. Questa sera sarà, come dicevo prima, insomma qualche istante fa, una lunga serata in compagnia di questa band, di questa voce femminile straordinaria, e fino alle 24. Perché purtroppo per i fans, chiamiamolo così, o per gli appassionati della musica rock di Alberto Prisco, purtroppo per motivi suoi personali non può essere presente qui questa sera, quindi vi dà l'appuntamento a giovedì della settimana prossima. Io ne approfitto anche per mandargli un caro saluto, e quindi sarà diretta fino alle 24 con questa band che si chiama The Twisters, assieme ad Alice Violato, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima devo salutare il mio vecchietto, che spero stia bene. Ciao Maurizio, ci sei? Sì, buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, sto bene, sono nella fossa dei leoni. Quando sono nella fossa dei leoni sto sempre bene. Ti sei ripreso? Mi sono ripreso. Stai bene adesso? Sì, sì, esattamente. Grazie. Bene, bene. Dopo una settimana di non essere alla fossa dei leoni mi mancava. Ti mancava? Mi mancava. Il rock mi manca, il rock è vita, secondo me. Il rock è blues. Il rock nel senso più ampio del termine. Certo, certo. Ma questa sera sarà blues invece. Quindi non sarà rock, sarà blues, ma sarà soprattutto una serata all'insegna della simpatia, dell'allegria di questa band un po' padovana, un po' da Rovigo, se non sbaglio, ma ce lo diranno loro, insomma, di dove sono. Un applauso. Grazie, sei gentilissimo. Allora, prima di presentarli, come al solito, vi do i nostri dati tecnici, cioè il numero telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo il 346 23 20 033, e poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it. da lì potete ascoltarci in streaming. Se invece ti state ascoltando via radio, le nostre frequenze, vi ricordo, sono 88700 e 94600 MHz in modulazione di frequenza. Le nostre pagine Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure Blu Radio Veneto Rock Wave, pagina gestita totalmente dal nostro direttore artistico, appunto Alberto Prisco, che salutiamo di nuovo e ringraziamo della sua, come dire, partecipazione continua, insomma, per la ricerca della musica rock in tutto il mondo. Lui, sapete benissimo, meglio di me, che cerca veramente gli artisti dappertutto e vi propone sempre le cose esclusive, cose nuove, che noi fa veramente molto piacere, e si scoprono a volte gli artisti che sono straordinari. Ho parlato un po' troppo questa sera, ma insomma tempo ne abbiamo, e quindi consentitemi anche questa lungaggine, ma adesso è il momento di presentare questi artisti. Da chi comincio? Non lo so, comincio da te Paolo, ma ecco. qualcuno mi ha detto che se comincio da te poi non la smetti più. Non è vero. Vabbè, comunque facciamo le presentazioni ufficiali. Abbiamo i The Twisters con Alice Violato, e quindi benvenuti a Blu Radio Veneto. Ciao Agostino. Ciao Agostino. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. E sono al basso, c'è Nick Muneratti. Ciao a tutti, buonasera. Alle percussioni Matteo Quassin. Ciao a tutti ancora. Appunto Paolo Bacco alle chitarre. Ciao. Manca Claudio Lupo alle tastiere, perché ha problemi, che lui insomma... Ha avuto un problema, sì. Quindi comunque lo salutiamo caramente. E poi c'è una splendida amica, io mi ci sono affezionato, lei è una ragazza splendida, veramente solare, solarissima, simpaticissima, si chiama Alice Violato. Ciao Alice, benvenuta. Grazie Agostino, ciao e benvenuti a tutti. Alice, ti porto già i saluti di Giulia Daici. Oh, grazie. Che vogliamo anche salutarla e di nuovo complimentarci con lei per il bellissimo concerto di ieri sera. È una cantautrice italiana, ascoltatela, Giulia Daici. Ti sta ascoltando e mi sta già rispondendo, guarda, su Facebook. Ciao Giulia, ben sintonizzata. Allora, Maurizio. Sì, progetto The Twisters nasce nel 2004, nasce dal grande amore per Jimi Hendrix, dal grande amore per Stevie Ray Vaughan e dal grande amore per la musica in generale, vero Paolo? Sì, allora, era appunto il 2004, io venivo da esperienze, da una lunga esperienza con un gruppo che si chiamava Fly, con il quale ho fatto parecchie cose, abbiamo fatto parecchi festival in Italia, sempre nell'ambito del blues, e abbiamo accompagnato una cantante per tre tournée circa. Chi era la cantante? Era Cynthia Bland di New Orleans, la sì. Nipote del grande Bobby Bland. Chiaro. Poi siamo stati insieme circa 10 anni più o meno, abbiamo fatto parecchie cose, veramente, e un CD con lei anche. Poi insomma la cosa termina, perché sai, ognuno prende la propria strada, poi le cose insomma vanno come vanno, e ho avuto altre esperienze più di tipo jazzistico che altro. Poi a un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto: io adoro Jimi Hendrix, io ho voglia di mettere in piedi un power trio. E allora ho chiesto a Matteo, che è qui presente, eccolo qua Matteo, e ad Alessandro, che è un ragazzo che poi ha preso un'altra strada, che suonava il basso. E ho detto: oh ragazzi, mettiamoci lì e prendiamo un repertorio un po' hard alla Hendrix, alla Vaughan, e così, senza nessuna velleità particolare, era solo proprio divertimento puro, andiamo a suonare, punto e basta. E così abbiamo fatto per un po'. Dopo, sai, l'appetito viene mangiato. Cosa tira, no? Cosa? Cosa tira cosa, e fa una prova, e fa due prove, e suona, insomma, viene un'idea nuova, uno spunto nuovo, salta fuori qualche cosa, nasce questa esigenza di fare pezzi propri. Esattamente, originali vostri. Esatto, originali nostri, senza inventare, per carità, stili particolari, solo mettere la firma, insomma, nostra su tutti quanti i pezzi. Anche se, bisogna dire una cosa, che le riproposizioni delle... i pezzi non vostri, è una riproposta molto personale. Ecco, io comunque... molto personale. Esatto. Io non ho mai amato prendere, soprattutto questo genere di musica, prenderlo e farlo... Oddio, in fase di studio lo devi capire, lo devi fare uguale, diciamo. Certo, no? Però secondo me andare in giro e fare questi pezzi qua, quando già loro non li facevano mai uguali. Quello. Cioè, mi sembra una roba veramente un'impresa... oltre che arduo, anche inutile. Cioè. Allora, quello che si è sempre cercato di fare è comunque metterci del proprio. Comunque. In ogni caso. Non è che si reinventa. Però, insomma, non stare lì troppo fissati sul passaggino, sull'assolino che deve essere quello, insomma, che deve essere... Allora, questo è sempre stato comunque lo spirito. Sempre questo. Comunque anche adesso. Esattamente. Quindi inciso un album di pezzi vostri, allora, assolutamente. Esatto. Allora, abbiamo detto, però forse è meglio che ci facciamo aiutare anche da una tastiera, così abbiamo chiamato Claudio Lupo, che salutiamo ufficialmente. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Il Brian Hoyer della band, io ho sentito il pezzo. Lui è un grande appassionato. C'è un pezzo che del disco nuovo che lui si ispira, noi nella recensione abbiamo scritto si ispira al grande Brian Hogan, e liquidamente si ispira a Brian Hogan. Sì, assolutamente, lui l'ha anche sempre detto. Esatto. E niente, allora abbiamo chiamato Claudio si è unito a noi, insomma, ha cercato anche lui, ha messo molto del suo, che Claudio ha proprio una mentalità da arrangiatore che è incredibile, non scappa una virgola che lui non dica qualcosa, non voglia cambiare qualcosa. È meticoloso, è una roba bestiale, veramente bestiale. I grandi professionisti sono così. Comunque lui lo vedi subito, perché quando fai una prova, no, tu sei già un po' gasatino per il pezzo, dici, certo. che bello, guardi lui e vedi che ha il muso così, che miseria, c'è qualcosa che non va. qualcosa che non va. Comunque vabbè, insomma, al di là di questo. Allora, insieme noi quattro abbiamo deciso di fare questo disco, questo CD, che si intitola Blowing the Blues Everywhere. E poi avete avuto la recensione di Fabio Treves, che è una magnificenza nel blues. Sì, Treves è sempre stato molto simpatico con noi, sempre, sia col primo che con questo nuovo. E salutiamo anche lui. Certo. Che ci sia o che non ci sia, noi lo salutiamo. Praticamente è una... Perché comunque si è sempre speso molto, molto bene nei confronti nostri, insomma, noi lo riteniamo... Uno che ama il blues visceralmente, possiamo dire questo. Esatto, e noi lo riteniamo un punto di orgoglio. Certo, insomma. Certo, una cosa, recensione. Possiamo citare anche il giornale Jam, un giornale anche, che ama particolarmente Jam, questo, esatto. È recensito da Fabio Treves, vuol dire che è un marchio di fabbrica, non esatto. Da poco. E così, insomma, questo progetto è andato avanti, e il titolo non è stato messo a caso, Blowing the Blues Everywhere, sta a significare suona quello che vuoi, basta che ci metti del blues, perché noi effettivamente non possiamo definirci un gruppo blues in senso stretto, cioè non siamo... ma anche perché, insomma, noi abbiamo ascoltato del blues, veniamo un po' tutti da quell'ascolto lì, però non viviamo nel Mississippi, non siamo dei bluesomani puri, duri e puri, insomma. Ci piace però il feel blues. Ho capito. Allora noi siamo convinti che in qualsiasi musica, se ci metti del feel blues, diventa subito bella. Questa è una convinzione nostra. Sì, veramente. Sì, beh, io ho ancora in mente il pezzo a Sanremo di come si chiama, quello che ha arrangiato poi Ray Charles. Il cantante che cantava Sono un italiano, sono un italiano. Ah, Toto Cotugno. Toto Cotugno. Il pezzo suo fatto da Ray Charles sembrava. Era un'altra cosa. È un'altra cosa. Ci ha messo, cosa ha fatto? Ci ha messo del blues. Eh sì, d'accordo. C'era Ray Charles. C'era un piccolo. Se mi permetti, quell'anno lì c'è stata anche un'altra versione di una canzone molto bella di Pooh. Cioè I Uomini Soli, che fatta nella versione di Didi Bridgewater. Esatto. Ecco, vedi, abbiamo avallato questa teoria. Secondo me è stato il Sanremo più bello. Allora anche noi da Rovigotti, come hai detto prima, noi ci siamo posti questo problema. Ho detto, mettiamoci del blues sulle cose che si fanno e forse le cose miglioreranno. Ecco. Quindi un episodio che è capitato lentamente nel 2008. Il disco si è formato, è stato inciso nel 2008. Poi avete fatto un sacco di concerti dal 2008 al 2010. Molto interessanti, importanti. Noi abbiamo fatto su tutti, secondo noi, su tutti il Bordighera. Quello è importante. Come mai? Che cosa si sente? Che atmosfera si respira al Bordighera Blues? Ma al Bordighera Blues è una grandissima atmosfera, anche di tensione, perché poi c'è un aneddoto su quello. Ma vai, spara, abbiamo tempo fino a mezzanotte. Non c'è problema. Allora, noi abbiamo pensato di fare questo concorso, no? Che era un po' legato anche alla partecipazione al festival. Certo. E allora abbiamo detto, ma sì ragazzi, dai, tentiamo, cioè, non è che noi siamo molto per i concorsi, però insomma alcuni bisogna anche farli, perché eravamo in fase di uscita, dovevamo farci conoscere, per cui bisogna che ti giochi qualche carta, non c'è niente da fare. Certo, la visibilità serve. Esatto. E allora abbiamo detto, l'abbiamo fatto e ci chiamano. Oi boh, però, bene. Allora abbiamo detto, vabbè, andiamo. Dopo, per motivi insomma che non sto qua, non siamo stati in grado di star via, perché siamo su 500 da noi, da Rovigo, sono 520 chilometer, quindi non pochi. Allora abbiamo detto, vabbè, dai, via, si fa una scampagnata, se va e se torna e non se ne parla più. Allora siamo partiti la mattina alle 8, il 2 agosto era, e nel frattempo entra nel gruppo Nicola Munerati, il nostro bassista. Esatto. Ecco, buonasera, è giovanissimo, molto giovane. È molto giovane, ha 45 anni, ma non li dimostra. Esattamente, non li dimostra. Molto giovane. Allora. Ne dimostro in realtà molti meno di quelli che ho comunque. Ah, beh, interessante. No, okay, comunque, dimmi, ecco. Paolo. Allora, siamo partiti la mattina, il 2 agosto, per cui gente che andava in ferie, vedo, chissà se arriveremo mai. Invece poi siamo arrivati, abbiamo trovato un libro, c'era la coda sempre sulla carreggiata opposta. Non so se avevamo il buon Dio, Sant'Antonio. E allora insomma arriviamo là stanchi, morti, avevamo le occhiaie che insomma arrivavano alle scapole, eravamo finiti completamente. Comunque arriviamo là, facciamo il sound check e lì cominciamo a sperare di essere fra i primi, perché eravamo in 10, no? In 10 gruppi selezionati su 330 gruppi. Beh, tanti sono. Però noi a quel punto eravamo veramente cotti e abbiamo detto, oh ragazzi, speriamo che ci facciano suonare subito, così andiamo a casa, non se ne parla più. Ultimi. Bellissimo. Ci fa suonare quante per ore d'attesa. Allora, ma insomma, abbiamo cominciato 10:30, un quarto alle 11 circa. Abbiamo fatto i nostri 18 minuti, perché avevamo 18 minuti. Regole abbastanza. Regole ferre. Le regole. Insomma, il tempo di arrivare a casa. Alle 10:30 ero già al lavoro, alle 11 accendo internet, guardo sul sito del Bordighera, abbiamo vinto noi. Spaventoso. È una roba incredibile. Insomma, siamo tornati poi, perché questo ci ha dato accesso alla serata di apertura, cioè abbiamo aperto noi Salomon Bark. Mitico quello, È stata un'emozione fortissima, non avevamo molto, molto tempo, dovevamo sempre aprire, per cui poltrona. Scaldare l'ambiente. Sempre con la sua poltrona. Super poltrona enorme. Sì. E avevamo una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Per cui siamo tornati là, abbiamo preso il premio, perché ci ha dato un premio la SIA, siamo andati sui siti della SIA, insomma è stata una cosa molto, ma molto, un palco enorme con luci dappertutto, una roba allucinante. Beh, insomma, quella è stata un'emozione molto, ma molto, molto forte, perché è stata proprio concentratissima, non ci pensavamo nemmeno, è stata proprio una cosa che ci è piombata addosso, molto, molto bella, veramente. E da lì insomma abbiamo cominciato un po' un percorso, insomma anche a selezionare, insomma a fare un po' delle cose carine. Poi ci siamo fermati perché abbiamo detto, se vogliamo andare oltre dobbiamo fare una scelta importante, e siamo qui per questo. Certo. abbiamo fatto una scelta che insomma che è quella di inserire una vocalist femminile, esatto, e insomma abbiamo fatto sostituito da te. sostituito me, ha sostituito dal me. Punto di vista vocale, chiaramente. Dal punto di vista vocale. Abbiamo sostituito un Rovigotto con una Padovana, che farà felici molte persone. Bilanciamento. Bilanciamento. Esatto, esatto. Per sì. cui, ecco. No, ti stavo dicendo, io so che tu hai una passione sfrenata per un chitarrista. Sì, beh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Io... Però non parlare, se no parli sempre tu, come diceva lì. A sto punto mi tocca dire che è veramente così. No, era solo per collegarmi, Paolo, scusa, a parte gli scherzi. Perché so che hai messo nel primo disco vostro sì. questa canzone dedicata appunto a Jimi Hendrix. Sì, sì, sì. La vogliamo ascoltare e poi magari ne parliamo. Magari, sì, sì. Allora, si intitola? 4JH. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io l'ho trovato un pezzo bellissimo, Paolo. Grazie, sera. Grazie mille. È veramente una bellissima ballata, come dicevi te quando me l'avevi accennata prima, che mi è piaciuta veramente molto. Grazie. E la riascolterò ben volentieri. Poi questo verso a Jimmy, insomma, è un grande. È l'omaggio a Jimmy. Jimmy, si sente che sei un musicista che ama particolarmente, un musicista che ha al di sopra di tutti gli altri musicisti. Che Jimmy era, come parlavamo a microfono spento, era un istintivo, non aveva regole, le sue regole, gli altri non potevano arrivare alle vette di Jimmy, e nessuno mai è arrivato alle vette di Jimmy, c'è poco da fare. Ci sono tantissimi bravissimi chitarristi, però l'istintività, la voglia di fare di Jimmy, proporsi, e rimarrà unico secondo me, non ce ne sono altri. Ma questo lo credo anch'io. Io adesso è chiaro che ci sono due correnti di pensiero. No, ma ci sono anche due aspetti. Quello emotivo, cioè tu ascolti una cosa, ti piace, punto e basta. Sì, d'accordo. È inutile stare lì, è molto, sì. Molto irrazionale la cosa. Dopo però c'è la voglia di andare ad analizzare le cose, e tu lì capisci che Hendrix veramente aveva una marcia in più. Sì, qualcosa in più. Tu ascolti in quell'epoca certe sostituzioni di accordi che faceva lui, non le trovavi nel rock, non le trovavi nel rock blues, le trovavi nel jazz forse, ma nel rock blues no. Per cui, e lui era completamente un illetterato, per cui capisci che lì c'era qualcosa. Insomma, un illetterato, no? Che il leader dei Ten CC ha visto, esatto. Che era grande, il leader di Ten CC, di Goldman, l'ha tirato fuori da qualche locale londinese, grazie a Goldman, possiamo sottolinearlo. Dopo chiaramente Hendrix è diventato Hendrix, ma grazie ai Ten CC, al leader di Ten CC, Hendrix è diventato Hendrix. Hendrix è diventato Hendrix, ecco. Non parlo più, chiedo scusa a tutti. Adesso abbiamo scaldato l'ambiente, adesso possiamo partire. No, aspetta. No, possiamo partire. C'è una persona, un carissimo amico che vi vuole salutare. Pronto? Ciao, pronto? Pronto? La riconosci? Chi è? Pronto? Paolo, ciao, Gianluca. Gianluca, me... Radio RCS. Oh, ciao, ciao Gianluca. Ciao Paolo. Ciao, come va? Bene, bene, dai, sono tornato da 2 o 3 giorni da Londra, ho fatto 4 giorni. Ecco, questo per farci sentire male, allora dai, hai chiamato apposta per umiliarci tutti e farci sentire male. Vabbè, grazie Gianluca. Lui l'ha detto telefonicamente, ma a me ha mandato un SMS, guarda, sono qui a Londra, ti saluto, hai capito? Ti ho fatto soffrire. Sì, infatti. Ho mandato la cartolina così. Grazie, grazie Gian, grazie. Ciao Gianluca, ciao. Come stai? Bene, bene, dai, può stare che siamo ancora un po' abbastanza flashati da quel che abbiamo visto in Inghilterra. Hai fatto manbassa di dischi, Gianluca, di CD? No, questa volta no. Ah, peccato. Ho comprato 2 riviste, una è Mojo, la classica, sì. E poi ho trovato una rivista, diciamo, del retromaniaci che si chiama Shindling, dove in copertina c'erano gli Small Faces. Ho detto, questa la voglio. Ho preso questa rivista meravigliosa, dedicata tutta al rock del passato, con retrospettive sui Bee Gees degli anni 60, degli Small Faces, su Sandy Denny, insomma, ecco. Bene, bene, bene. Una roba carina, insomma, ecco. Per il resto, insomma, altro saltino all'Hard Rock Café e in giro per l'Inghilterra, un po' a tastare gli umori della città, insomma, abbiamo visto tante belle cose, abbiamo fatto anche il giro su London Eye. Fantastico. Tu sei sempre in giro. Ho approfittato di questo ponte, diciamo, lunghissimo per riuscire ad andare, insomma, a visitare un'altra volta Londra, che il richiamo è stato troppo forte. Certo, certo. Comunque, hai visto, abbiamo i Twister, so che tu li avevi già scoperti. Certamente. Già avuti in radio. La nuova cantante, perché poi ho seguito alla distanza la band, quando poi ho saputo che ha avuto diciamo l'unione con la nuova cantante Alice Violato. Tu l'hai conosciuta Alice? Lei no, lei però no. Io conoscevo Paolo dal precedente disco Blowing in the Blues Everywhere, molto bello, insomma, ecco, sono rimasto in ottimi rapporti. Grazie con loro, Gianluca. Ecco, sì. È un bel periodo che non intervisto formazioni blues, però loro mi sono rimasti molto nel cuore. Lo sapevo, me l'avevi detto, esatto. Va bene, Gianluca, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, resta all'ascolto. Grazie. E sai che dobbiamo fare quella cosina in agosto, magari. Certamente, in agosto. Ci facciamo ancora. A proposito, ero rimasto al discorso di Londra, mi sono incontrato con una band, vediamo con Alberto, c'è un futuro, vediamo, però è ancora tutto sull'aria. Vediamo se riusciamo a portarli qua in Italia, perché sono desiderosi di venire qua in Italia. Noi siamo con le porte aperte, lo sai. Eh, lo so, sono molto entusiasti di venire. Alberto ha visto il videoclip di questa band qua, gli piace? È rimasto molto flashato. Perfetto. Bene. E allora vedrai che arrivano anche qui da noi. Speriamo, dai. Va bene Gian, salutami Martina e ci sentiamo. Ciao Gianluca. Tu te lo ricordi? Sì, è un mito. Come no? A che punto eravamo? Dobbiamo cominciare a fare qualcosa adesso. Un po' di musica, musica disco. Live. Benissimo. Okay? Parla vicino al microfono, Alice. Alice, devi parlare. Sì, eccomi qua. Ecco. Allora, passiamo al primo pezzo, ragazzi. Yeah. Ma dall'ultimo disco allora lo fate? Questo è un pezzo registrato nel nuovo disco, No Ordinary Blues. Sì. Il pezzo si intitola Mama, he treats you daughter mean. Farò una piccola presentazione davanti al mio microfono. Okay. Ah, vai a farti la presentazione. Allora, con tutta... Sì, siamo un po' stretti stasera, quindi dovete portare un po' di pazienza che si preparano, come dicevo prima, proprio perché insomma la musica poi tra l'altro è bellissima. Vi consiglio assolutamente di restare lì, di ascoltarli dal vivo perché sono straordinari. Prego Alice. Allora ragazze, questo è un messaggio per voi, ascoltatemi bene. Non fatevi trattare male dagli uomini. Avete capito? Non fatevi trattare male dagli uomini. I said, Mama, treat your daughter me. Here's the meanest man I ever seen. Mama, this man is crazy. Almost drives me crazy. Mama makes me squeeze. Still, my squeeze, oh please. Mama, my heart is aching. I believe it's breaking. I'm stood, well, I can stand. What's the matter with this man? Treat your daughter me. Oh mama, treat your daughter me. That's the meanest man I've ever seen. La ragazzina Che forza hai sentito Maurizio Decisamente dobbiamo sottolineare una cosa Alice, questo è un pezzo di Ralph Brown. Yes. 1953 siamo tornati un po' indietro, con il tempo e, è un brano appunto che abbiamo reinterpretato a modo nostro e intanto spero sia piaciuto. No, decisamente molto molto grintoso. Sì. È un po', è un rhythm and blues molto veloce, velocizzato. L'avete chiamato e avete colorato in questa maniera. Assolutamente sì, un po' rispecchia anche la mia, diciamo, scusami, la tua attitudine al movimento, sì, alla, ecco, al muoversi, a ritmare, sì, al ritmo. Sì, sì, assolutamente. Tipo Paolo ha fatto un bel giro di chitarra, si sentiva, era molto ispirato. Bassista niente da dire, e anche il batterista niente da dire. Il combo perfetto, l'unione perfetta dei suoni nel blues, e non soltanto nel blues, perché dobbiamo allargarci. Dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, non è prettamente una band blues. Il blues è solo un tramite. Sì, è un filo conduttore. Un filo conduttore, come abbiamo detto. Maurizio. Agostino, sì, sono qua. Sono rimasto sconvolto. Dobbiamo cercare di capire, di allargare, perché il blues... No, ma figli, sai, io conosco Alice, tra virgolette, la conosco, insomma, da poco tempo, insomma, l'ho sempre vista come una persona dolcissima. Scoprirla in questa versione così carica, così aggressiva, così grintosa, fa sempre un certo effetto, insomma. E ti fa onore comunque, Alice, ti fa onore. Grazie, Agostino. Dicevi, Maurizio, scusami. Sì, no, dicevo, questo... Come mai avete scelto un pezzo di Ralph Brown? Ma sicuramente abbiamo cercato di inserire nel nostro disco, appunto, No Ordinary Blues, degli standard che provenissero da estrazioni diverse, per diversificare un pochino quella che era, appunto, la scelta dei brani. Ci è venuto in mente questo perché era una cosa un po' proveniente dagli anni 50, come certo dicevi tu. Sì, il 7 marzo del 53 è stato inciso, è venuto, cioè, praticamente, sì, mi sono informato, 7 marzo del 53 è andato in classifica negli Stati Uniti. Perfetto, e quindi insomma dagli anni 50 abbiamo preso questo come brano. E molto, molto spesso avete preso pezzi con le cantanti femminili, perché ci sei te chiaramente. Sì, questa scelta, appunto. Paolo ha accettato, il tuo nome non mi ricordo mai. Niccolò ha accettato, anche il nostro batterista, più l'organista. Avete accettato che tu interpretassi alcuni standard di blues woman, possiamo dire così. Sì, assolutamente. È un repertorio che abbiamo condiviso e scelto assieme. Per partire, ecco, questo disco è stato registrato proprio per consolidare un sound di band. Beh, sei partita bene, 21:46, vedo Agostino, è partita benissimo, per sì, partire, sì. Ha detto. Per partire. Ma poi lei ci farà ascoltare la sua voce anche in altre canzoni che sì, sono. Sì, ma abbiamo tempo per quello. C'è una poi che assolutamente non dovete perdere. esatto. Dobbiamo anche sottolineare che abbiamo un fotografo stasera. Sì, esatto. Questa è una settimana, Agostino. Oh, mi ci sono innamorato, che ci devo fare? Quando parte il cuore, parte il cuore. Sì, stasera c'è un fotografo. Sì, esatto, mi stavo dimenticato di dirlo, che appunto Fabio ci sta dando una mano, appunto, alle fotografie, e lo ringraziamo, insomma. Grazie, Fabio. Grazie. Allora, cosa dobbiamo... Anzi, io volevo sapere adesso, a questo punto, visto che hai parlato tanto di voi, insomma, del vostro passato, Paolo, com'è arrivata Alice? Ma lì c'è arrivata. E come mai questa scelta, insomma, questa allora, voglia? Sì. Come ho accennato prima, io cantavo io prima, no? Sì. E sì, per cui io credo di avere solo il pregio di essere intonato, punto. Però secondo me serve molto di più per fare certe cose. E allora noi avevamo, questa volta sì, avevamo velleità di fare qualcosa di più, insomma, anche per quanto riguarda i pezzi nostri. E per cui ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: oh, ragazzi, qua bisogna fare una scelta, bisogna mettere un fronte, bisogna che il gruppo abbia una cantante, possibilmente donna, perché vogliamo fare certe cose, insomma, questo. E allora ho visto una volta a Rovigo, proprio, ho visto Alice che cantava con un gruppo tributo ai Blues Brothers, e ho detto: porca miseria, questa... Perché lei ha, oltre a cantare bene, insomma, una bella voce, tutti l'abbiamo sentita, lei ha teatralità, no? Lei sa stare in palco, si muove bene, insomma, è brava. E allora abbiamo detto, quasi quasi, gli chiedo se vuole far parte del nostro progetto. E così, non da subito, dopo qualche mese ci siamo sentiti, io l'ho fatta venire al Delta Blues, a Rovigo, ha suonato al Delta Blues col gruppo suo, eccetera, ci siamo... parlati, insomma, abbiamo fatto una serie di discussioni e poi siamo partiti. E così, diciamo, quindi età. Quasi per caso, insomma. Sì, sì, per caso. Proprio ero lì in questo locale e vedo questa qua che arriva fuori col vestito, rivestita da. No, allora sì. Allora ero in tenuta, ci tengo a dirlo. Mm-hmm. Avevo il vestito da bluesman. Cioè, e sarebbe? Che sarebbe allora vestito nero, camicia bianca, cravatta nera, cappello nero e occhiali da sole. Quello era, quello era uno. Brothers. Però io quando ti ho visto, quando è arrivato lui, invece avevo la seconda divisa, che era quella indossata da Aretha Franklin nel film The Blues Brothers, ed ero vestita da cameriera. Avevi le calze sotto il ginocchio, sta traversona bianca, insomma era fantastica. Allora ha detto, beh, questa è la cantante di Twisters. E così da lì. E così è nato tutto. Esatto. E per te Alice cosa ha voluto dire inserirti in questa band? Ma sicuramente è stato un confronto importante, perché comunque arrivavo da esperienze diverse, perché in passato ho cantato per molti anni rock, poi ho fatto rhythm and blues e successivamente mi sono avvicinata al blues. Iniziando appunto l'esperienza con i Twisters, sicuramente ho dovuto confrontarmi con delle persone che tecnicamente erano, insomma, ad un buonissimo, ottimo livello, e quindi è stato anche un modo per cercare, insomma, di migliorarmi innanzitutto. E in più abbiamo costruito un repertorio che in passato non avevo mai affrontato, quindi anche questo è stato sicuramente una bella sfida, devo dire. E che adesso sta andando a gonfie vele, insomma. Assolutamente sì, siamo e io personalmente sono molto contenta di come stanno andando le cose. Stiamo lavorando sodo e speriamo, insomma, che arrivi presto anche il nuovo disco. Un terzo? Assolutamente sì. Ah, quindi siete già... Siamo già al lavoro e sarà un disco di tutti inediti. Mm-hmm. Ci stiamo lavorando e... Maurizio... Sì, sì. No, no, stavo dicendo, Maurizio, inutile che glielo diciamo, tanto loro sanno già che vengono qui a presentarlo, vero? Più che volentieri. Decisamente. Una cosa che non avevo letto adesso, leggevo velocemente, Paolo, tu suonavi la batteria e poi sei passato ai finger picking. Sì, allora io la mia passione grande... Poi parliamo con gli altri due protagonisti. La mia passione... Mi preoccupata, dimmi. Allora, la mia passione grande era quella. La batteria. Io ancora adesso quando la vedo, intanto chiedo a Matteo. A Matteo. Dico, Matteo, fammi fare due colpi. Perché proprio per me la batteria è lo strumento. Io... Dopo, siccome abitavo in campagna e là potevo prendere, poi insomma sono andato a abitare in un appartamento, non ho più potuto, allora ho ripiegato sulla chitarra e mi ci sono buttato a capofitto, però perché allora facevo chitarra classica, sì. tutto a posto, tutto perfetto. Poi ho conosciuto un cugino che sapevo che esisteva, però insomma era un po' più grande di me, non è che ci frequentavamo molto. A un certo punto ho cominciato a frequentarlo e lui mi ha fatto iniezioni di rock psichedelico, rock blues, Jimi Hendrix e compagnia, lì mi sono veramente partito con la zucca. Beh, sei partito bene. Poi Matteo ha sempre detto che di batteria non capivi assolutamente nulla, vero? Sì, è così. Chiaramente fai riferimento alla biografia. Certamente, sto leggendo la biografia qua davanti. Ma l'ho messa, diciamo, in maniera un po' così scherzosa. Scherzosa. All'inizio chiaramente non ci capivi niente. All'inizio non capivo niente. Lì, se non mi ricordo male, ho citato anche che conservo la mia primissima batteria, che era una batteria giocattolo con le pelli di plastica. Insomma, una cosa che magari si può documentare a livello fotografico, così chi visita il sito si fa due risate. A parte questo... Ma sei stato sulla strada di Damasco, sei stato sconvolto da John Heisman del Colosseo. Sì, quando ho iniziato a suonare, sì. Qui devo ringraziare mio padre, che io sono diventato appassionato di musica in generale, e comunque batterista, perché suonavo e suono ancora mio padre, che mi ha sottoposto un archivio discografico di quelli notevoli. Diciamo che, come tutti, ho ascoltato non solo il Colosseum, certo, ma John Heisman, sì, il Blood, Sweat & Tears, chiaro, ma anche musica, diciamo, di vario tipo, qual è la musica leggera italiana, oppure quella sudamericana, oppure cubana. E diciamo che... anche il funky. Anche il funky, anche il funky, per la gioia di Paolo. Esatto. Io so tutto. Tu vai passo passo. Passo passo. Tu non mi fai scappare una virgola. Ci sono due punti, poi non mi ricordo. C'è a casa altra cosa, però mi sono fermato a questo. Dopo parliamo anche col bassista. Certo. Di tutte queste cose, diciamo, ho cercato di ricavare il mio modo di suonare, il mio sound, che ho messo al 100% nei Twisters. appunto sempre lì credo che sia scritto che la band con la quale ho suonato, chiaramente ho fatto esperienze musicali diverse, di vario tipo fortunatamente, perché tutto aiuta a migliorare musicalmente, però con i Twisters ho trovato lo stato d'animo, il modo di esprimermi migliore, e questo fa onore ai musicisti dei Twisters e al progetto che stiamo portando avanti. Parliamo con Nicola, il bassista. Nicolò il bassista. Nick è il perfetto compromesso. Che è il perfetto compromesso? Di cosa? Tra Nicolò e Nicola, uno dovesse sbagliare. Nicolò, assolutamente. Eccoci qua. Basso, perché il basso? Hai scelto uno strumento come il basso? Bella domanda. Diciamo che nel momento in cui ho deciso di iniziare a suonare uno strumento avevo le idee un po' confuse, perché comunque mi piaceva la musica in generale, mi piacevano tutti gli strumenti, ero indeciso tra batteria, chitarra, tastiera, eccetera, salvo poi rendermi conto che il basso è il tramite ideale tra tutti questi strumenti. Giusto. E che volendo, insomma, si può essere impiegato in vari modi, sia per l'accompagnamento più classico, piuttosto che per fare assoli, arpeggi, melodie, eccetera. Quindi ho pensato, per me questo è lo strumento più completo, voglio fare questo. Stavi dicendo... Volevo sentire parlare un momento dei Guernica, che era il gruppo che avevi visto. Sì, i Guernica sono cari amici che saluto, che stanno anche loro promuovendo il loro ultimo lavoro che hanno fatto a Rovigo, nello stesso studio dove noi abbiamo inciso l'ultimo nostro disco, che è il No Frontiers Recording Studio di Ugo Bolzoni. Sono una band che avevo formato con alcuni cari amici e facevamo un genere decisamente diverso da quello dei Twisters, perché facevamo un rock con varie influenze, insomma, dalla psichedelia all'hard rock, eccetera. Un'esperienza molto divertente cui guardo con molto affetto, diciamo. Bene. Volevo interrompervi perché vi porto dei saluti. Voi non ci crederete, ma vi giuro è la verità. Dal Qatar, da un tecnico del suono, si chiama Sayed Ahmed e lavora presso, io faccio anche la pubblicità, Al Jazeera Children's Channel. Ci sta ascoltando, vi saluta e vi fa i suoi complimenti, insomma. Grazie. Grazie mille. Dal Qatar. Quindi grazie. Pensate un po' dove arriva Blu Radio Veneto. Quindi... quindi la prossima canzone minimo dovete fare questo tecnico del suono, insomma. Assolutamente sì. Senz'altro. Senz'altro. Che canzone ci fate adesso? Ci ascoltiamo qualcosa dal vivo ancora? Sì, allora il prossimo brano è stato scritto da Paolo Bacco, si intitola Listen to My Heart. Quindi ascolta il mio cuore, giusto? Un qualcosa di romantico, di dolce. Allora, noi ci siamo, ci siete quasi pronti. Quando mi fate segno, io vi do l'ok e lei ci si sta preparando. Ci sei? Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Guitar is my only friend. If you change your mind. many men I can look into their eyes, but my heart could never tell. Baby, baby, baby, baby, I love you, you are all my life. You are all my life. You are all my life. You are all my life. Maurizio, questo è un pezzo di Paolo che in cui si sente l'amore molto per lo swing, che ha condiviso con il blues, ha fatto un pezzo assolutamente molto bene ispirato, in cui il tuo vezzo jazzistico bene o male esce. Ma io, cioè, dire che sono un jazzista forse è molto. qualche l'amore che io, tuo per che il io jazz strizzi l'occhio, sì, che io strizzi l'occhio al jazz, sì, è già una musica che mi piace molto, che studio pure, e per cui mi fa anche piacere, insomma, sentire dire che qualcuno se ne accorge. Comunque, ecco, sì, ma c'era tanto swing in sì pezzo. Sì, assolutamente, è una musica che adoro. Comunque, insomma, al di là di Hendrix, di cui abbiamo parlato prima, che sicuramente è un grande amore eccetera, però insomma io ascolto parecchia musica sempre nell'ambito della black music, della black esattamente. Però insomma un po' tutti questi aspetti, il swing eccetera. E i musicisti hanno seguito benissimo in questo pezzo originale tuo. Come l'idea di fare un pezzo originale tuo tra le nove classici, come è nata? Ma perché semplicemente perché piaceva. Piaceva cantarlo anche a Alice, e ho detto bene, proviamo. Basta. È andato ottimamente. Chi è che sceglie le canzoni all'interno della vostra band? Ma noi siamo abbastanza democratici, tutto sommato. Io credo, insomma, penso che un gruppo come il nostro debba un po' soddisfare tutti, altrimenti questi progetti non stanno tanto in piedi. Io credo che bisogna che ognuno metta e prenda qualcosa, altrimenti non vanno avanti. Quando ci sono i pezzi non cover, come è stato in questo caso, i pezzi originali, li scrivi te con gli arrangiamenti degli altri o sono una questione di gruppo? Sì. No, allora l'arrangiamento è sicuramente sempre di tutti. Dopo io cerco, se porto dei pezzi, cerco, a meno che non si faccia un lavoro, cioè ti metti lì e fai delle ore a suonare vuoto, magari allora scatta qualche cosa, però in genere io cerco di arrivare con l'idea abbastanza fatta, abbastanza, come posso dire, con inizio, fine. Cioè, poi arriva Claudio che... E dopo arriva Claudio che la mette a posto. Però insomma, io per il primo disco l'abbiamo fatto in questo modo, qua. Poi secondo me non c'è un metodo quello. Io cerco di arrivare col pezzo quasi fatto. Poi l'arrangiamento è sicuramente di tutti. Il nuovo disco l'avete fatto in un giorno? Sì. Ecco, come si fa a fare un disco in un giorno? Una cosa, al di là dell'aspetto economico per lo studio di registrazione, ma come si fa a fare un disco in un giorno, che c'è gente che ci mette per fare un passaggio un mese? Beh, bisogna arrivare molto preparati, molto diciamo, carichi, cioè, possiamo carichi dire questo. E comunque con i brani ben chiari nella mente, sia come struttura che quello che si vuole ottenere, insomma. E quindi il fatto che noi avessimo provato molto i brani e che il nostro tecnico, appunto Ugo Bolzoni, conoscesse già la band ha favorito notevolmente, insomma, questo discorso. Questa cosa è stata una tirata, però è stato molto emozionante, insomma, fare un disco live in studio in un giorno. E dobbiamo sottolineare live assolutamente dal vivo, assolutamente, ragazzi, non c'è live. Niente di artefatto, perché è lo stile dei maestri, lo stile del blues. Tutto da assolutamente dal vivo, anche nello studio di registrazione. Ma io penso, ma tutti noi siamo convinti che, infatti, la scelta è stata anche per questo, al di là di chiari motivi economici, che insomma, chiaramente che quello sono importanti. Stiamo qua a fare. Però è pur vero che una musica come questa non la puoi fare come un Tetris. Voglio dire, devi. Cioè, se non c'è quello spirito così live, non può funzionare. Non si può neppure partire, secondo me. Esatto, ecco. È chiaro, deve essere così. Io cito i Pearl Jam, perché cito i Pearl Jam? Perché i Pearl Jam sono quelle band che amano il vintage in ogni caso, cioè tornano indietro, cioè, e registrano i pezzi quasi sempre assolutamente live, e quello è uno spirito diverso. Chiaramente il live è un'altra cosa, il live in studio è un'altra cosa, è più difficile, siamo d'accordo, quando si sbaglia, ma è bello anche sbagliare nel live, perché bisogna anche sbagliare, lo sbaglio e secondo me ci sta, c'è poco da fare, io lo sento così, la vedo così. Certo, assolutamente. Mettiti un po' vicino al microfono. Sì, scusami, mi sono avvicinato un attimo. No, volevo soltanto dire, aggiungere quello che ha detto Nicolò in merito al disco, che è stata veramente una bella tirata alla fine delle 8 ore d'ufficio. È bello, quello è bello, disco, molto bello. Il disco nelle ore d'ufficio, siamo usciti tutti stanchi, però molto soddisfatti, e diciamo che il lavoro di pianificazione fatto in sala prove è stato molto utile, soprattutto per trovare quel sound anche in studio che dia proprio l'idea del live a tutti gli effetti. Non è semplice, perché negli studi di registrazione non sei vicino, ognuno diciamo suona un po' isolato per i fatti propri, quindi trovare l'interplay giusto non è semplicissimo. In questo caso direi che ci siamo riusciti benissimo, questo sta a testimoniare insomma che ci conosciamo bene musicalmente, anche se non riusciamo a vederci diciamo spessissimo. Sì, esatto. Certo. Facili, e quindi sta a testimoniare che l'ingresso di Alice ha movimentato in senso positivo ancora, certo, meglio la band, chiaramente. Ok. E poi insomma come nasce questa scelta di queste canzoni, cioè voglio dire, adesso che state facendo quelle nuove, ok, ma quelle vecchie insomma come sono nate, perché avete scelto queste determinate canzoni in questo disco insomma, che sono cover? Parli dell'ultimo tour? Sì, del Non Ordinary Blues. Allora io farei parlare Alice. Lei che ha scelto? Diciamo che essendo un disco dove abbiamo puntato molto sulla voce, perché certo, insomma l'abbiamo fatto pensando molto ad Alice, per cui credo che la parola sia assolutamente sua. Lascio a te, Alice. Sì, bene, allora abbiamo mescolato canzoni di varia estrazione, sempre standard blues, comunque questo era il filo conduttore, e le abbiamo portate con una nostra sonorità, infatti le abbiamo riproposte in una chiave spero quanto più originale, questo è stato lo sforzo, tanto che secondo me appunto il singolo di Paolo Bacco, Listen to My Heart, all'interno si integra bene con tutto il resto. Questo forse grazie appunto al risultato che siamo riusciti ad ottenere, di dare proprio una sonorità nostra a questi brani, senza tempo alcuni. Sì, sì, decisamente senza tempo. Poi, come abbiamo detto precedentemente, l'impulso è stato di riproporre anche i pezzi da voci femminili, che è stato fondamentale anche questo. Visto, assolutamente. Quello era chiaramente si doveva fare, perché visto l'ingresso tuo nella band aveva questa caratteristica. Ok, andiamo avanti, cosa dici? Beh, io sono qui. Sono 22.08 e 09. Facciamo ascoltare qualcosa dal disco o volete suonare ancora? Sì, si dicono di sì, ci riposano un momento. Sì. Sì. Io ho qui pronta, se vi può far piacere, Born Under a Bad Sign. Oh yeah. Facciamo ascoltare quella? Certo. Perfetto. Dal disco che si chiama No Ordinary Blues, The Twisters con Alice Violato. I can read Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre in ascolto di Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme al mio fedele compagno da molto tempo, 2 anni, vero Maurizio? Sì, sì, due anni felicissimi musicalmente. 2 anni felicissimi, abbiamo fatto un sacco di live insieme, esattamente. Sarà sempre piacere. Questa sera abbiamo questa band che fa il blues, cioè i Twisters con Alice Violato, che ci stanno presentando questo disco, ma che insomma magari ci fate ascoltare qualcosa di nuovo, no? Da quello che uscirà, no? Qualche tempo sì, no, prima chiedo troppo. Hai già anticipato qualcosa? Ah, ecco. Non lo sapevo. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo è il 346 23 20 033, frequenza 88 700 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito per ascoltarci in streaming quindi è www.bluradioveneto.it, semplicemente cliccando sopra il simbolo della cuffia lì si ascolta la radio 24 ore su 24 assolutamente in diretta. Parliamo di allora di Albert King, 1967, e la realizzazione dell'agosto del 67, però è stato in giro tra il marzo del 66 e il giugno del 67. Perché Albert King? Tu dicevi a microfono spento, è un mio idolo Albert King. Assolutamente, è un ascolto insomma di vecchia data per me, un bluesman che adoro nello stile, sia come chitarrista che come vocalità. E quindi anche per il fatto che comunque ho cantato per tanto tempo anche un repertorio prettamente maschile, ho inserito con piacere questo brano. Ed è stato, lui fa parte della Blues Foundation Hall of Fame, e Rolling Stone Magazine e Grammy Hall of Fame. Assolutamente, quindi è un personaggio importantissimo appunto nell'ambito del blues, che tra l'altro vorrei anche dire che Paolo ha avuto anche l'occasione di vedere dal vivo nel 1992 al Delta Blues di Rovigo. Sì, sì. L'hai visto? Io l'ho visto, sì, perché essendo appunto Rovigotti, come dicevo, abbiamo vissuto per lungo tempo e ancora adesso, insomma, il Delta Blues, che era questa grande manifestazione a Rovigo dedicata al blues, anche quello più tradizionale. Certo. E nel 92 arrivò Albert King, che ha fatto anche un po' le bizze, cioè nel senso che è un personaggio un po' difficile, non è facilissimo. Però quando si è messo a suonare ha fatto mezz'ora di grandissimo blues, assolutamente ha inchiodato tutti anche i non appassionati. Sono stati là a occhi sbarrati a ascoltarlo, perché veramente ha dato una lezione del blues, di vero blues, proprio quello vero con la B maiuscola. Di più. E lui incideva per la Stax Records, l'etichetta mitica, la Stax Records. Sì, etichetta di Memphis. Tra l'altro Albert King aveva già militato per parecchi anni in giro come musicista senza mai trovare successo. Fu proprio con la Stax, appunto, con questo disco e con i musicisti della Stax, gli arrangiamenti della Stax, che è arrivato al grande pubblico ed è diventato un personaggio, insomma, internazionale. Gianluca suggerisce che la canzone di Albert King è stata rifatta anche dai Cream. Sì, è vero, hai ragione Gianluca, ha perfettamente ragione, è Clapton Docet, chiaramente. Assolutamente. Bene, allora a questo punto ci ascoltiamo adesso qualcosa di voi, da voi. No, però prima io voglio chiedere, voi quando siete a casa cosa ascoltate? A parte i Twisters. Molte volte i figli che ci chiedono delle cose. No, allora parlo per me. Allora chi tocca? Tutti quanti. Facciamo un giretto, ascolto un po' di tutto. Ascolto il blues, ascolto del jazz. Ultimamente del jazz anche per questioni di studio, sto insomma frequentando dei corsi per cui blues, jazz, che è funky, la mia dimensione. Ma c'è qualcosa di preferito, insomma? Ma no, io vado più a generi che a personaggi, tutto sommato. Non hai qualcuno che ti, insomma, ti fa impazzire? Ma c'è un Joe De Francesco che mi piace molto, che è un emondista tra l'altro, non è neanche un chitarrista. C'ha un sound jazz in blues che mi fa veramente... Mi piace molto. E quindi? Ascolto questo, ascolto un po', ascolto funk, ascolto i Tower of Power. Un gruppo funky che mi fa veramente, che mi prende molto, per cui il genere è un po' quello. Blues ascolto Forse ne ho ascoltato tantissimo, adesso un po' fermato. Un po' meno, sì, vado, sono meno alla ricerca. Matteo, dai, dimmi qualcosa. Dai. Avvicinati al microfono. Effettivamente non è semplice dire cosa ascolti, perché lo dico, ultimamente sto ascoltando un disco di Fusion, io e Nicola, benissimo, Nicola. Ogni tanto facciamo qualche citazione nei soundcheck, quindi ma il Fusion serve per fare il soundcheck? No, serve più che altro per fare due sorrisi per gli altri che sul palco. Okay. A parte gli scherzi, oltre a questo un po' di tutto. Il blues probabilmente l'ho ascoltato molto di più quando ho iniziato a suonare con i Twisters. Mi sono avvicinato al blues un po' old style, che è quello più o meno che abbiamo riproposto anche nel nostro disco. E ho cercato di con gli ascolti e poi con le prove con i Twisters di cercare di capire bene quale fosse il sound di queste, più o meno, insomma, sono queste le cose che... Quindi anche tu non hai un... Sì, no, non c'è, è difficile, siamo musicisti un po' a tutto tondo, quindi... Non vi dico il gesto che mi ha fatto. vai, dimmi. Poi, partendo dal presupposto che sono musicalmente molto onnivoro, diciamo, anch'io ho una predilezione particolare per la fusion, in quanto bassista, perché è un genere dove finalmente ci prendiamo la rivincita noi bassisti sugli altri musicisti. Pastorius Docet, dai. Assolutamente. Poi comunque sento molto il funk, il soul, il rhythm and blues, cioè musica con molto groove, molta spinta. Musica West Coast o AR, tipo i Toto in particolare, la mia band preferita. In toto, perfetto. Però soprattutto il periodo di fine anni 80, tipo 7-1, dischi come questi. Blues, ovviamente, certo, fa parte del mio background. Soprattutto... Anche perché lui è figlio d'arte. Cioè un... Sì, mio padre è un armonicista blues. Allora sì. Africa. E dopo, in generale, comunque cerco di tenermi un po' aperto su tutto quello che succede musicalmente, anche se ci sono dei generi che proprio non riescono a entrarmi nel cuore. Benissimo. Tipo la musica troppo elettronica, cose di questo genere. Ho capito. Tocca a te? Alice adesso mi ha fatto un segno. No, era solo per dire che anch'io ho ascoltato, per tanti anni rock, jazz, rhythm and blues. E poi sono arrivata al blues come ultima esperienza musicale. È stata sicuramente una cosa abbastanza forte, nel senso che mi ha catturato sotto molti punti di vista, ecco. E quindi attualmente, certo, ascolto blues e cerco di spaziare sia dai primi, diciamo, songster, bluesman degli anni 30 alle cantanti e le grandi cantanti di blues. Ma degli anni 20. Riesci a recuperare qualcosa di quegli anni là? Assolutamente sì, perché comunque sono stati rimasterizzati tantissimi dischi e si trovano abbastanza facilmente, ovviamente. Importazione. Non sempre nei negozi, anche su internet, ecco. Voi cari ascoltatori non lo sapete, ma Paolo sta facendo una piccola colonna sonora con la sua chitarra. Puoi continuare mentre parlano gli altri, è molto positivo e molto, molto bello, secondo me. Voi non lo sentite, ma secondo gli ascoltatori lo sento io, appena sottolineato, però fa bene, dà atmosfera anche quello. Ok, quindi tutti per un genere, ma non nessuno per diciamo un cantante particolare, insomma. Ma io insomma vorrei citare sicuramente dei nomi che sono stati importanti per me. Il primo è stato sicuramente Muddy Waters. Voglio citare anche Elmore James, perché è stato colui che mi ha illuminato la via verso il blues suonato, nel senso che una mattina, appunto, avendo ascoltato per la prima volta Elmore James, ho deciso che anch'io avrei cantato il blues. Vorrei citare poi Bessie Smith, un'altra grandissima cantante di blues degli anni 20. E questi sono, insomma, i nomi sicuramente principali. Abbiamo già detto prima anche Albert King. Sì, esatto. E quant'altro, insomma. Questi sicuramente sono quelli che più mi hanno influenzato e colpito. Adesso invece ci colpiscono i Twisters, giusto? Certamente. Cosa ci fate ascoltare adesso? Allora, Agostino, il prossimo brano... Dal vivo? Comunque, sì. Certo. Assolutamente sì. Sì, lo dedichiamo a te. Grazie. Questa è I'd Rather Go Blind. e un omaggio alla grandissima Etta James, che è scomparsa qualche mese fa. Però ci ha lasciato tante belle canzoni che noi ascoltiamo sempre ben volentieri. Vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con i Twisters e con Alice Violato alla voce, che ci stanno proponendo questo blues, come dire, vecchia maniera, ma sempre bello, sempre efficace, sempre piacevolissimo da ascoltare. E adesso li sentiamo dal vivo. That was on my face. trouble. Want to see you walk away from each other. So baby, baby, I'd rather go blumble than to see you walk away from each other. Che dire, io mi emoziono. Stai in piedi tu che mi fai ancora quella solo adesso, che non l'ho mai chiesto a nessuno, quel pezzo con la chitarra in mezzo, con la canzone che mi piace da matti. Fai, fai, riprendilo. Quel pezzo che sei tu da solo. Che, quello che... da solo, da solo. No, c'hai cioè, con lei. Senza la Alice, insomma. Dicevo, quel pezzo in mezzo che ci sei solo tu. Con tutto il gruppo, sì, certo. Che meraviglia, Maurizio, che meraviglia. Bravissimi The Twisters. Assolutamente dal vivo. Grazie Alice per la dedica, questa è una canzone. Grazie a te Agostino, non so se sei capito, ma ora è chiaro che non ce n'è uno di uguale all'altro di Assolo. Vabbè, insomma. Nemmeno per gli accompagnamenti. Comunque questa è una canzone che mi è piaciuta subito tantissimo e io ne approfitto, Alicia, se tu sei d'accordo con me, per salutare Paolo dei Witmetrics, Paolo Magaraggia. Che assolutamente sì, ciao Paolo. Che so che ci sta ascoltando e gli piace tantissimo anche a lui questa canzone, anzi ti invidia Paolo perché voleva fare anche lui una solo in mezzo con la chitarra. quindi ciao a Paolo che so che appunto ci sta ascoltando. Vi rubo, vediamo un po', 27 secondi, va bene? Va bene. Spot. Cipon 100% Best Live. Su questa radio ogni mese 100 direttori artistici votano i migliori concerti italiani. 50 speaker radiofonici e una giuria tecnica votano per il premio Vox Hill Voce Gola, il prodotto di riferimento per chi della voce se ne intende. Scopri su cipon.it gli orari per ascoltare il nostro programma. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, a questo punto ci dovrebbe essere stato Alberto, ma purtroppo non c'è, insomma, non ha potuto essere presente questa sera, ma vi aspetta la settimana prossima, sempre giovedì alle 22.30 con il suo programma e la sua classifica di musica rock, quindi lo sostituiamo, spero degnamente, io e Maurizio, ma soprattutto con la musica dei Twisters with Alice Violato e il loro blues, quindi fino alle 24 con loro, ci hanno gentilmente concesso altri 90 minuti della loro musica e quindi noi siamo ben felici che siano qui con noi a rallegrarci queste ore di questa serata di questo 3 maggio 2012 qui a Blu Radio Veneto. Allora, questo è il pezzo di Etta James, è stato inciso nel 1968 e è arrivato nei primi 10 secondo la classifica di Billboard Rhythm Blues, nei primi 23 secondo la classifica di Billboard Pop. L'hanno inciso un sacco di gente, Rod Stewart, anche, e poi anche Kristen McVie, che è arrivata ai primi 20 in Inghilterra nella classifica pop nel 1969. Quindi un pezzo è diventato un classico nella voce di Etta James, 1968, ma ancora vivissimo e freschissimo adesso, 2012. Assolutamente. Bellissimo. L'abbiamo scelto, diceva giustamente Agostino, l'abbiamo scelto come apripista del disco, da un mese va in onda. Abbiamo scelto quel pezzo là. Grazie. Grandioso Agostino, veramente. Abbiamo scelto per aprire, cioè, per lanciare il disco, il vostro disco. Quando una band viene a suonare, troviamo sempre un pezzo significativo, noi Alberto, io Alberto e Agostino, e abbiamo deciso di lanciare con Etta James. Mi fa piacere perché comunque questo brano secondo me è riuscito bene per quanto riguarda l'arrangiamento che abbiamo fatto, in quanto siamo riusciti a fare una cosa secondo me un po' originale, però mantenendo sempre quello che era l'essenza. Dell'interpretazione data da Etta James. Certo, e io ho notato anche, l'ha inciso anche Paolo Nutini recentemente, l'anno scorso, due anni fa, e ha dato una sua versione. Paolo Nutini è un grande musicista, assolutamente, è una persona, un artista molto interessante. Questo non lo sapevo neanche io. Mi sono informato, ho fatto una ricerca. Parlando di Etta James, adesso è morta di recente, quindi era una grande musicista, un artista con la maiuscola, aveva un certo fascino, anche se era un po' scontroso, è un personaggio un po' particolare. Sì, assolutamente, la sua grandezza secondo me è anche stata quella di essere una cantante di R&B, sì, di R&B, di tutto, esattamente. Però ha interpretato alla grande tantissimi classici, sì, blues. Esattamente. E questa insomma non è una cosa da tutti, nel senso che interpretare il blues con il suo carattere non è cosa facile. Ha interpretato, certo, grandi brani scritti da Willie Dixon e cantati dal grandissimo Muddy Waters al femminile, al e femminile. Quindi ha dato un'altra versione al femminile di questi pezzi. Benissimo. Io voglio sapere chi è il campione di biliardo. Questa qui è una domanda importante. Questa è una domanda importante perché mi dovete spiegare chi è questo campione in questa copertina. Guarda, c'è un aneddoto anche sulla copertina. Noi siamo il gruppo con più aneddoti. No, allora, a un certo punto eravamo lì e abbiamo detto: ragazzi, dobbiamo fare delle foto. No? Dobbiamo fare delle foto. Con non ben un'idea chiara in testa, detto, bisogna cominciare a muovere un po' l'idea, fare qualche cosa. Allora ci siamo trovati a casa del nostro amico Claudio, okay, che lui vive in un bed breakfast, praticamente molto bello, grande, con... sì, è vero. Cioè, gestition bed breakfast. Ah, bene. Gestition, sì, bed breakfast. Se ho bisogno, so chi e allora praticamente loro hanno il biliardo, eccetera. Il bello è che quelle foto lì le abbiamo fatte in pieno inverno, era -2 e voi eravate in camicia? -2, noi eravamo in camicia con le scarpe spuntate. Agostino, sì, vedo quello davanti. E abbiamo fatto ste foto non sapendo bene se poi venivano utilizzate o no, proprio solo per così, provare, per provare. Insomma, abbiamo fatto queste foto con delle temperature assurde, ok, e dopo alla fine invece sono risultate belle, simpatiche, però che suoni, senti, che gioca biliardo, mi sa che non c'è nessuno di non c'è nessuno una scena... giochi te? Io gioco, non sono un mostro, ma gioco. Te la cavi? Me la cavo, esatto. Per me giochiamo di tanto in tanto, ecco. Questo per dirvi che la foto che trovate all'interno del libretto, chiamiamolo così, insomma, della copertina del disco dei Twisters con Alice Violato, sono loro cinque in questa tenuta scura, solo tu sei a righe comunque, vedo. E... ero per un sito di galera. Sì. Madonna. Con queste stecche di biliardo che si apprestano a far finta di giocare, insomma, sì, ecco. E il cagnolino invece di chi è? Sempre di Claudio? È sempre il cane di Claudio che risalutiamo. Certo. Anche Natasha, sua moglie. E il suo cagnolino che abbiamo deciso di lasciare appunto sul retro della copertina assieme a tutti i titoli del disco. E già che ci siamo, che parliamo della copertina del disco, dove, se qualcuno volesse acquistarlo, dove lo si può trovare questo? Allora, il nostro disco è disponibile innanzitutto anche online, si può scaricare presso CD Baby, quindi basta digitare The Twisters with Alice Violato, troverete subito la nostra copertina. E potete acquistare singolarmente ogni brano oppure l'intero album. Altrimenti vi diamo la possibilità di acquistare l'album durante i nostri concerti, cosa anche più apprezzata, diciamo. Così vi diamo anche tutto il pacchetto intero con la copertina, insomma, e le nostre foto. E inoltre è disponibile anche al negozio di Rovigo. Il negozio Rovigo da Ferrari è disponibile il nostro CD, per chi abita da quelle zone, insomma, può anche andarlo a prendere là. E se qualcuno vi contatta, insomma, oppure se qualcuno ci contatta, lo spedite a casa. Esatto, sì. Certo. E invece i prossimi concerti? Prossimi concerti, allora siamo in zona, cioè le date precise, allora sì, abbiamo l'8, allora l'11 maggio siamo a Arzergrande, per cui giochiamo in casa della nostra cantante, lì sarà un delirio, io me la vedo già. No, ci tengo particolarmente a questa serata perché comunque ci capita di suonare in giro, però mai nel mio paese, è un piccolo paese, però è il mio, quindi... Una volta all'anno, quasi come B.B. King, faccio una data nel mio paese, sono contenta appunto perché è il solito posto, il locale che ci ospita, tra l'altro saluto Isabella che spero sia in ascolto, e saremo lì appunto venerdì 11 maggio. E poi? Poi siamo a giugno, andiamo a giugno, siamo l'8 giugno allo Stardust, a Padova, poi il 9 giugno siamo a un festival blues. Salutatemi Lorena. Esatto. Quando è che stai allo Stardust? Venerdì 8 giugno. Magari. Il 9 giugno, ma penso che bombarderemo. Il 9 giugno siamo a un festival blues di Imola. Poi siamo il 29 giugno anche a Piove di Sacco. Siamo a Piove di Sacco. Poi siamo. Poi abbiamo anche delle cose, insomma, che stiamo trattando. Poi siamo a luglio, siamo al Montagnola Blues di Bologna. Siamo anche al Delta Blues, possiamo dirlo, anche se non è ancora uscito. Insomma, il 13 siamo al Delta Blues, luglio. E altre cose che stanno venendo su, altre cose che stiamo contattando. E all'estero siete mai andati a suonare? Fate fare qualcosa? Vi piacerebbe? Ma abbiamo avuto dei contatti, è vero, però poi insomma non è facile. Beh, speriamo di sì, nel senso che stiamo curando questi contatti e spero quanto prima di riuscire a concludere magari qualche data, insomma. Anche perché il blues è apprezzato moltissimo, soprattutto in Svizzera, in Germania, quindi è anche bello poter esibirsi, insomma, di fronte ad un pubblico, oltre che preparato, anche interessato a questo genere. Ecco. Certo. Moritz? No, leggevo nella biografia di Alice, tu sei stata in Texas, in Louisiana, nel Mississippi, North Carolina, in Georgia, hai fatto il percorso del blues, per proprio immedesimarti al 100% nel blues, è così? Assolutamente sì, è un viaggio che ho fatto nel 2010, alla ricerca appunto della strada del blues. Della strada, sì. Sono partita dal Texas, dove ho avuto modo di incontrare uno degli ultimi grandi musicisti provenienti dal Delta, che era Pinto Perkins. È scomparso l'anno scorso, nel 2011. L'ho visto quindi qualche mese prima, all'età di 97 anni. Mamma mia, bellissimo. È stato l'ultimo pianista di Muddy Waters per circa una decina d'anni. L'ho sentito suonare ed è stata un'emozione fortissima, perché vedere un personaggio, insomma, di questo calibro è stato già, insomma, una grande sorpresa. Sentirlo suonare è stato meraviglioso. E da lì, insomma, quello era il primo giorno del mio viaggio, ho incontrato lui. Successivamente poi mi sono spostata a sud, a New Orleans. E poi ho intrapreso il vero cammino nel Mississippi. E lì ho avuto modo di vedere cosa sono questi famosi juke joints, no? Questi posti un po' sperduti nella campagna dove ci si ritrova a suonare un po' tra amici, un po' tra chi arriva. E ho proseguito per Clarksdale, un altro posto meraviglioso appunto per il blues, dove ho visto e ho avuto il modo di conoscere Watermelon Slim. E poi l'ultima tappa in Georgia, dove ho avuto modo di vedere invece Johnny Winter insieme al grandissimo James Cotton. Perfetto. Ok. Li conoscete questi? Io sì. Sì. Questo è Blue Jeans Blues dei grandi ZZ Top. ZZ Top. Oh, proprio Texas, quindi. Texas, sì. Assolutamente Texas. Non c'è molta differenza dai nostri twisters, vero? Agostino, grazie. Guarda, passa al bar, prendi quello che vuoi. Ascolta, come è nata questo nome, insomma, della band? Il nome è nato ai tempi del quando eravamo il Power Trio, no? Cioè l'idea era quella di dare l'idea, mi ripeto. L'idea era quella di dare l'idea di un gruppo che, cioè come un tornado, insomma, un tornado di suono che ti veniva addosso. Insomma, ci siamo un po' così, un po' gasati su sto concetto. No, ecco, questo era. È nato così. È nata così, insomma. E poi è rimasta così. Poi è rimasta lì. Poi abbiamo scoperto che c'è un gruppo australiano, cos'è? Canadese, anche loro Twisters, che dopo aver messo un video su YouTube, loro hanno scritto: siamo noi i veri Twisters. Fantastico. Come è andata a finire? No, niente. Dai, che forse si sono sciolti loro. E quindi è rimasto quello italiano, è rimasto quello ufficiale. Ah, sì. Bellissimo. Maurizio. Sì, sono 22:44 e loro hanno detto che un giorno hanno fatto il disco. Stiamo passando bellissime quasi tre ore verso mezzanotte, quindi suoniamo ancora. Che cosa assolutamente suoniamo? Allora, un'anticipazione dal prossimo disco. Assolutamente una new entry che noi non abbiamo mai sentito. No, non l'avete ancora sentita. Quindi un'esclusiva. Insomma. Un'esclusiva assoluta. Per voi questa sera. Grazie. Un pezzo scritto da Paolo Bacco, si intitola High Dead. 22:45 Blu Radio Veneto con i Twisters, con Alice Violato e il loro No Ordinary Blues, questo che ci siamo per ascoltare, insomma, un pezzo come avete sentito dal vivo. Vi ricordo i nostri numeri telefonici se volete mandare qualche messaggio, e gli sms sono il 346 23 20 033, oppure chiamare qui in studio allo 049 875 6423. Ma adesso è il tempo della musica dei Twisters. Thank you. when you let me leave. I remember when you bought me a moat. I remember our laughters and jokes. I remember when I Maurizio, che ne pensi? Bellissima questa canzone. Bellissima, bellissima. Non sembra neppure un blues. Questo esatto. È un... Posso dire una cosa? Guarda che ti guarda male, Alice. No. Più che blues è un rhythm and blues, cioè assolutamente questo. Sì, effettivamente. Assolutamente questo. È molto, molto soul, molto black, possiamo dire questo. Hai colpito nel segno. Quello è accattivante, nel senso molto positiva, cioè è una melodia nonostante tutto che entra immediatamente senza tanti giri di parole, senza tanti giri di suoni, anche se Paolo ne ha fatti tanti di giri in questo momento, musicalmente parlando, parlo sempre musicalmente parlando, si sentiva che era un pezzo che l'ha scritto lui, perché come lo suonava era suo, anche suonandolo. Anche se non è vero tecnicamente che suonate tutti quanti e tutto è sempre vostro, però era più forte il suo appartenere al pezzo rispetto agli altri. Beh, insomma, sì, insomma, l'ho visto così. Il riferimento è chiaro, insomma, l'ho visto Dead, così. Hey Dad, insomma, è dedicato a mio papà che non c'è più. Per certo. Cui, insomma, ecco, voglio dire. Quindi scava internamente un'emozione, sì, in ogni caso. Sì, quando sono la senti. Poche parole semplici, insomma, però. Chi l'hai citato tu? Cosa? Hai scritto tutta tu la canzone? Sì, sì. Anche la musica? Sì, poi l'abbiamo arrangiata. L'avete arrangiata assieme, sì, sì. Qua tutti hanno messo il suo. Dire come che dicevi ognuno... prima, insomma. Sì, sì, sì, no, ma io... Cioè, anche perché poi il pezzo sembra parlare sempre un po' retorici, ma non è assolutamente vero. Quando fai una cosa devi anche sentire un po'. Beh, certo. Non puoi arrivare là, no, altrimenti per quanto bello possa essere un pezzo, è sempre una cosa estranea. Insomma. No? La devi sentire, per sentirla devi metterci qualcosa, devi avere un senso di appartenenza, insomma devi sentire questo pezzo, in questo pezzo ci sei anche tu. E secondo me è fondamentale, soprattutto per chi lo fa non di lavoro, cioè noi viviamo per la musica ma non viviamo di musica. È diverso, è un ragionamento giusto, esatto. Quello che hai fatto. Per cui secondo me se la musica non ti dà qualcosa di più, che ci vai a fare, voglio dire, no? Certo. E per cui devi sentire un po' del senso di appartenenza a sta roba. E una cosa devo sottolineare ai nostri ascoltatori, lo sottolineo ben volentieri, quando uno è qui come me nella Fossa dei Leoni, appartiene anche lui ai musicisti direttamente, si sente anche lui un musicista, certo. Suona anche lui anche se non suona, fa parte dello spirito di qua dentro, è una cosa molto bella secondo me, lo sento sempre quando sono nella Fossa dei Leoni, il regista è un po' staccato, Agostino è un po' staccato, al di là del vetro, ma qualcuno proprio dentro, è come fosse faccia parte, è un altro elemento, sì. Fa parte dell'insieme delle cose, è una cosa molto bella, e per quello è molto bello fare radio in questo momento, è così. Si sente una cosa molto al di sopra di ogni sensazione che si può dare. Beh, noi siamo fortunati, diciamo, come speaker in questo senso, perché ascoltiamo sempre, certo, dal vivo e in acustico, che poi la canzone nasce sempre. Pensa, questa sera quasi in acustico, insomma, ma questa, le canzoni nascono veramente così, una semplice chitarra e la voce, no? Quindi è nuda e cruda, insomma, la canzone, e poi si sviluppa. E quindi noi che ascoltiamo anche fin dalle prove, insomma, veramente siamo molto fortunati perché ascoltiamo delle cose, beh, poi essendo lì vicino proprio a tu per tu, insomma, è ancora più bello. Eh sì, è proprio questa, la sensazione è proprio questa. È una sensazione meravigliosa. Mi sto ripetendo forse, però si deve provare per capire. Ma ci sono dei momenti anche molto, molto emozionanti. Tanto per aprire un po' il discorso, c'è stato un gruppo di Bologna, io lo dico sempre, dell'Emilia Romagna, non di Bologna, che è venuto qui. Ha fatto un pezzo, una ballata, che io amo le ballate, ha fatto una ballata splendida, ha spento la luce e hanno suonato a luce spenta. Ah, guarda, c'erano solo le luci, guarda, e il monitor. Chi mi conosce da tempo sa che io sono un tipo un po' burlone, che prende in giro, che dissacra tutto, eccetera. Però poi alla fine io mi rendo conto, anche ste robe qua, no? Comunque, io mi ricordo una volta uno, dopo un blues di 40 minuti, però di 20 anni fa, quando c'erano quelle lunghe suite, no? Sì. Arriva lì uno e fa, mi sono sentito bene, hai fatto questo blues che mi ha dato una dimensione cosmica, io mi sono messo a ridere, una dimensione cosmica. Però in effetti è vero, cioè secondo me se alla musica levi questa cosa, questa emozione, questa, che cosa rimane? No. Cioè, tu devi sentire qualcosa di più, devi avere... devi sentire stoppato, altrimenti è una cosa sterile. Sì, diventa una cosa sterile. Non dice assolutamente niente. E tu hai detto una cosa giusta: noi facciamo un altro lavoro e sentiamo la musica in modo diverso. È vero questo? Cioè, lo fai perché lo ami particolarmente. E quello è il motivo. No, niente da dire: i musicisti professionisti sono musicisti professionisti. Niente da dire. Però hanno. Dimmi. No. Apro una piccola parentesi perché io invece faccio la professione del musicista. Però. Questa cosa che ha detto Paolo è molto vera, perché certo, quando approccio ad esempio la musica di Twister, io sono un appassionato, ecco, metto il cuore, cioè non potrei mai definire un lavoro una cosa come questa. Esatto, cioè, metti la passione, metti che la facciamo passione per considerarlo lavoro. Metti la passione, è fondamentale secondo me. E il divertimento, che è la passione, è la stessa cosa. Dimmi. No, era un saggio per Nick, è un assaggio. Ok. 22:55, tutto assolutamente in diretta. Vive l'allegria all'interno del vostro gruppo, vero? Si è capito, vero? Sì, assolutamente sì. Oh, non ti nascondo che le discussioni esistono, però... Ma è giusto, è normale, insomma, non tutti abbiamo... Però siamo assolutamente... democratici. Sì, ma anche un gruppo che, secondo me, io te l'ho anche detto qualche giorno fa, eravamo in chat, certo, ho detto, sì. è la situazione che più amo, questa qua, fra tanti anni che suono, insomma, sono parecchi anni che suono, questa è quella che mi sta dando di più, perché è quella che produce di più, quella che fa nascere più... E io ti ho risposto, se ti ricordi, esatto, perché c'hai l'esperienza alle spalle. Vabbè, insomma, spero hai accumulato anche, adesso spero sai che conti anche questo. Beh, insomma, conta assolutamente questo. Insomma. Vale lo stesso anche per me, per Maurizio. Poi, insomma, che lui è quando era 1800 che sei in radio, tu 1750. Sono 35. È nato prima di Marconi. Sì, sono nato prima di Marconi. Sicuramente prima di tutti voi, questo è chiaro. 35 anni sono, 35 anni di radio, è una cosa molto, molto, molto. Comunque, bella. Anch'io entravo nel 76, Maurizio. Comunque. Sì, beh. Siamo vecchi, ma vecchi si fosse anagraficamente, certo, ma di tu spirito, sei vecchio, sì, sono vecchio, ma di spirito non siamo vecchi, siamo no, assolutamente, assolutamente. Poi abbiamo questa fortuna, come dicevamo poc'anzi, di essere qui in radio, di sentire gente come loro, insomma, come certo, Twisters, insomma, fare qualcosa dal vivo, che ci fanno anche adesso qualcosa dal vivo. Certamente, che cosa, ragazzi? Assolutamente. Allora, facciamo un passo indietro. Sì? Questo è un pezzo del grandissimo Elmore James, riproposto in chiave nostra, è Done Somebody Wrong. Allora, mentre la Alice si prepara, c'è sempre questa preparazione di strumentazione, eccetera. Ma è questo per farvi capire che siamo assolutamente in diretta qui, dal vivo, in acustico, quasi, insomma, con questa band che ci sta veramente facendo una splendida compagnia questa sera. Siete pronti? Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. The bell just toned, my baby caught a train and gone. Train and gone. Yeah, it's all my fault. I must have done somebody wrong. Everything that's happened, you know I am to blame. Yeah, the thing that's happened, you know I am to blame. Gonna see everything that's happened, you know I am to blame. Everything that's happened, you know I am to blame. Gotta find me a doctor, maybe my luck will change, oh yeah. Bello, bravissimi, ladies and gentlemen, Twisted e Alice Violanto. Come facciamo, come fanno alle grandi convention del blues? È difficile rimanere fermi con canzoni così. Comunque, ci si muove anche se non si vuole. Bene. Sì, io, sì. Io non ti ho visto quella volta al terminal di qualche giorno fa, Alice, ma se sei questa carica così con le tue band. Allora, assolutamente, come dicevamo prima, il blues ha bisogno anche di essere spiegato, come dicevamo. Certo, sì. E per me è importante a volte, insomma, fare una piccola presentazione prima del brano, e questo succede quasi sempre. E poi è importante anche l'approccio che si ha sul palco durante i concerti dal vivo, perché si sta trasmettendo un'emozione, quindi... a mio avviso è sbagliato estraniarsi da chi ti sta davanti. Sì, è giusto. Presentiamo questa leggenda, visto che ci sei, dai. Presentiamo la leggenda, quel pezzo che hai appena fatto sentire. Ma sì, allora è un pezzo appunto scritto da Elmore James, il re dello slide. Esattamente. Scomparso prematuramente nel 63, quindi un bel po' di anni, fa, però ha lasciato un segno indelebile. Assolutamente, ispirato tutti poi i più grandi chitarristi slide. E, di un'arma in testa, probabilmente. Di lui si dice, tra l'altro, che fosse che avesse paura delle macchine fotografiche. Questo non lo e sapevo. Quant'altro, perché aveva paura che la macchina fotografica potesse rubargli l'anima. Ah, esistono okay. Pochissime fotografie sue? di Elmore sì. James, e non esiste nessun video, purtroppo. Ah. purtroppo. Beh, rimane leggenda anche per questo. Assolutamente, questo sì. Esattamente. Immagino. Adesso li facciamo riposare un po', facciamo ascoltare sì, qualcosa dal disco. Che Alice ha scelto una canzone che apre il disco, giusto Alice? Ma sì, io direi un grande classico di B.B. King. Questa è Every Day I Have the Blues. Every day Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, mentre il pezzo di BB, cioè dei Twister andava, il pezzo di BB King, e Paolo mi raccontava una cosa molto bella, adesso Paolo la puoi raccontare al pubblico che la sta ascoltando sicuramente. 23.07 in perfetta diretta. Sì, volevo dire questo, che io BB King l'ho visto dal vivo a occhio, l'ho visto 3-4 volte, però quella volta lì me la ricordo molto bene, perché ero sul palco con lui, non a suonare, ma ero lì a fare servizio sul palco. E l'ho avuto lì e l'ho visto lì e ho sentito veramente il peso della leggenda, del personaggio, del maestro, cioè proprio percepisci che BB King è BB King, insomma, c'è niente da fare. Io mi sono reso conto che qualche fraseggio mio assomiglia un po' a lui, però non l'ho... Io l'ho ascoltato abbastanza, però non l'ho studiato particolarmente. O mi era stato in testa, perché comunque, insomma, è un fraseggio talmente particolare che magari vai a cercarlo anche inconsciamente. Anche se non vuoi, esatto. Però mi rendo conto che ascoltando molto Robin Ford, se, ascoltando i primi dischi suoi, senti che strizza molto l'occhio questo stile. Probabilmente ci sono arrivato di traverso. Un po', no? O qualche fraseggio che assomiglia molto a grande BB, vabbè, insomma. E come mai avete scelto il pezzo d'apertura, il pezzo di BB King nella vocalist, nell'interpretazione di Alice? Parla a te, Alice. Dai, Alice. Ma sicuramente è uno tra i più famosi all'interno, certo, dell'album. E per questo, insomma, è stato inserito come primo pezzo nella scaletta, anche per la sua vivacità. Per dare una scossa. Sì, sì, sì, per aprire proprio le danze. E quindi questa è la ragione principale. Benissimo, allora, qui è già passato un bel po' di tempo. Sì, due ore circa. Siete stanchi? Assolutamente no. Vi state divertendo? Ah, molto, molto. Assolutamente. Allora, ricordiamo chi sono i Twister. Sono Nick Muneratti, Matteo Quasin, Paolo Bacco e Alice Violato. Poi manca Claudio Lupo, che Brian Hogger della situazione, che è il tastierista che manca, insomma, questa sera. Questa è Blu Radio Band, questo è Agostino, c'è il mio vecchietto solito inseparabile, Maurizio. E insomma, ci siamo tutti qui ad ascoltare questa band che ci sta onorando. Soprattutto ricordiamo che sono italiani, quindi fare blues in Italia non è facile. È sempre visto con un occhio un po' strano il blues qui da noi, insomma, è sempre visto di serie B, tra virgolette, se mi consentite l'espressione, insomma. Beh, sì, diciamo che fare blues non è molto semplice, insomma, che non è una musica che si sente. Secondo me bisognerebbe farla ascoltare un po' di più. In genere la gente tende a andare in cerca di quello che sente per la TV, per la radio. Ringraziamo la TV e la radio, sì. Non credo che il blues sarà mai una musica di massa, però secondo me bisognerebbe farla ascoltare un po' di più. Forse qualche riscontro in più si potrebbe avere. Se mi consenti, Paolo, ha avuto una certa spinta grazie a Pino Daniele. Pino Daniele ne ha fatto tanto di blues, anche se è un blues con qualche contravvallato, musica molto pop, però lui blues mastica. Beh, lui ha masticato blues e poi ha fatto la sua musica, e comunque non ha mai rinnegato il blues. Certo, assolutamente. Credo che una grande spinta l'abbia dato anche il primo film The Blues Brothers. Quello soprattutto, sì. Quello è stato proprio una spinta straordinaria. Che quella spinta lì funzioni ancora, forse la coda proprio fina, però secondo me ancora tira. Perché sai, dire blues e dire film è la stessa cosa, più o meno, almeno qui in Italia, insomma. Quando si parla di blues, i Blues Brothers, sì. Beh, se posso aggiungere, comunque anche l'Italia, insomma, può vantare ormai una tradizione buona, sì, quarantennale, certo, perché comunque il blues è approdato all'inizio degli anni 70 qui in Italia, forse grazie anche ad un personaggio che è Cooper Terry, che vorremmo anche ricordare, e da lì, insomma, è iniziato un pochino tutta la scena, prima di tutto milanese e poi anche nel resto d'Italia. Tra l'altro possiamo vantare anche importanti festival di blues, tra cui il primo è il Pistoia, che ormai compie 32 anni, se non ricordo anche male. Che Porretta è famoso. Poi abbiamo anche il Porretta, che comunque, insomma, sono più di 20 anni che propone, insomma, black music, rhythm and blues and soul. E ce ne sono tanti altri, insomma, che continuano a portare avanti questa tradizione, che... voglio anche dire, insomma, non è solo più americana, ma è anche europea. Sì, beh, Tolo Martone è nostro, è assolutamente Veneto, quindi è un grandissimo chitarrista blues. Assolutamente, si può dire che anche in Europa e in Italia ci sia una scena, insomma. Crivellaro, vorrei ricordare. Certo, anche Crivellaro. Lui. Assolutamente, che è uno dei più grandi chitarristi di blues e non solo al mondo, e ce lo invidiano tutti. Lo salutiamo, lo anche salutiamo con Ciao, Grammy Awards, come dire. Assolutamente, certo. Tra l'altro ha anche pubblicato il suo nuovo disco e magari riuscite ad averlo qua se torna, Vabbè, dalle sue tournée internazionali. Ti agiti, ti muovi tu, Alice. Beh, che... guarda. E poi ce lo fai avere qui. Insomma. Io lo ascolto sempre molto volentieri, da un po' che non lo sento, da circa un anno. Mm-hmm. Non so dove si trovi adesso, se in Canada o in Europa, lui è sempre in giro a suonare, e speriamo ritorni insomma presto anche a Padova. Insomma, se ci fai il nostro nome, lui, ben volentieri, le porte sono aperte, insomma, per i grandi artisti, per la grande musica, le porte di Blu-ray di Vento sono sempre aperte, insomma. Bene, sarà fatto allora. Mi raccomando. Maurizio, cosa dici? Ci ascoltiamo ancora qualcosa dal vivo? Sì, ma sempre dal vivo, sempre, perché dal se vivo. Loro hanno, ripeto, inciso un disco in un giorno, possono far suonare un sacco di pezzi in tre ore, chiaramente. Assolutamente. Anche sì. Perché hanno un sacco di sì, materiale. Di materiale. Una band blues, materiale ce n'ha sempre, c'è poco da fare. Di essere sempre a creare. Allora, con il prossimo pezzo facciamo un salto indietro agli anni 20. E questa è In Nobody's Business. Che sarebbe il disco precedente, praticamente, se non sbaglio, oppure no? Non c'è nessun disco. È proprio una cosa che fate dal vivo, praticamente. Sì. Che bello. Vai pure a prepararti, Alice, quando siete pronti mi fate un segno, che così facciamo partire il jingle e poi suoniamo dal vivo. Quindi assolutamente tutto dal vivo, non c'è trucco, non c'è inganno, come dicono in tanti, vero Maurizio? Sì, esattamente, tutto live, assolutamente, 23:13:36. Oggi è giovedì 3 maggio 2012, siete pronti? Ok. Allora, non si può mai dire o fare qualcosa che c'è sempre qualcuno pronto a criticare. Sembra impossibile, ma è così. E io con questo brano vi voglio dire che ho deciso di dire e di fare ciò che voglio e di fregarmene del giudizio degli altri. In nobody's business, if I do. If I should take the notion to go out and jump in the ocean, nobody's business if I do. If I should get a feeling to jump upon and dance on the ceiling, and nobody's business if I do. If I just like my lover and I living for another, yeah, no better business if I do. No. cheeky, a cheek on of my honey. C'è Fabio qui che continua a dire: ma quanto bravi sono, quanto bravi sono. Decisamente bravi, però bravi anche come cambio di tempo, perché questo pezzo aveva due o tre cambi di tempo, caro batterista. Adesso parli un momento, visto che il microfono ce l'hai sotto. Che è, quello è molto importante, non è molto facile. Il cambio di tempo innanzitutto dà un certo senso alle cose e dà la possibilità, sì, vendite le cuffie, dà la possibilità alla vocalist, in questo caso ad Alice, anche lei di mutare la dimensione del tempo. Sì, sì, certo. Infatti, questo è un brano che abbiamo, come si può dire, studiato a lungo. Abbiamo cercato, diciamo. Parla vicino al microfono, Matteo. Sì, scusami, Matteo, mettiti vicino. Abbiamo cercato l'arrangiamento migliore perché avesse tutte le sue sfumature. Quindi, questa è stata una delle cose che abbiamo ricercato molto per dare questa apertura, diciamo, che porta verso la fine del brano. Sì, effettivamente è un cambio di tempo che mette in difficoltà. Parlo con Paolo, poi parlerò anche con Matteo. Con Nick. Porta difficoltà il cambio di tempo. Chi ha deciso il cambio di tempo? L'hai deciso te, l'hai deciso Matteo, l'hai deciso Nick o l'hai deciso Alice? Ma oddio, al di là dell'intensità del brano, al di là del pezzo come era fatto originalmente. Ma poi è difficile capire, no? Perché quando sei lì e provi e cerchi di non fare appunto la cover. Non parliamo di cover. Esatto, ma proprio cerchi di fare una, allora cominci a dire cosa possiamo fare, cosa si potrebbe fare. Magari prendi spunto da qualche cosa che senti, lo cambi un attimo. Noi abbiamo preso come riferimento su questo pezzo un pezzo interpretato da Linda Hopkins. È chiaro che lì però c'era orchestra. Certo. Noi siamo in cinque, insomma, senza fiati, cioè bisogna trovare una dimensione che vada bene a chi suona, che vada bene a chi canta e che abbia un senso. Per cui prova, riprova un cambio di tempo per non creare una monotonia, perché secondo me il blues proprio perché è una musica molto di pathos, no? bisogna stare attenti e non cadere nella monotonia un po'. Allora inserire queste cose qua, studiarle, anche se mentre le studi è scientifica la cosa, dopo però una volta appresa poi scivola via e crea, automaticamente, esatto, quasi. E crea pathos, per cui dire chi è stato prima lui, prima io, cioè non sarei in grado di... È stata una cosa comune. È stata una cosa, prova, riprova. Che si è costruita. Bene, esatto, costruita. Questa ci sta, ok, proprio in relazione anche a quello che abbiamo detto prima, che noi tentiamo di non fare le cover, insomma, di prendere e adattarcele a noi. E mi conduco al discorso che ha fatto una recensione del blues, che parlava della coesione fra di voi, tra la voce di Alice e voi, e questo è proprio una coesione totale, questo cambio di tempo, tutto quanto è andato secondo il verso giusto. Sì. Ci vuole coesione per fare un esperimento di questo genere, un pezzo di questo genere. Sì, secondo me sì, è tutto un discorso, tutto un gioco di intese, un gioco di feel, perché mentre lo studi è molto scolastico, perché cerchi di farlo per tenere il tempo, dopo invece bisogna farlo vivere. No? Esattamente, bisogna farlo vivere. E allora col tempo, a furia di suonarlo fuori, magari la prima volta lo fai, non è un granché, però insomma ti giochi ste carte e un po' alla volta lo prendi e vedi che anche in situazioni improvvisate come questa, certo. Con non tutti gli strumenti, insomma, si riesce comunque a dargli un senso. Qui siete senza il tastierista. Che cosa dà Claudio in questo pezzo, per esempio? Beh, sicuramente dà quel tocco classico al brano, perché comunque è un pezzo degli anni 20. Certo. E infatti di solito è lui che parte con l'introduzione. A parte lui praticamente. Che dà, sì, no? Sì, sì, assolutamente. E quindi la sua presenza su questo brano è abbastanza, diciamo, caratterizzante. Ecco. Perfetto. Ok. C'è il microfono chiuso, l'hai aperto, adesso l'hai aperto, sì. No, stavo dicendo, com'è il rapporto di voi uomini con la bellezza padovana qui, insomma, durante le prove, insomma, cioè voglio dire, come siete? Siete... Sì, facciamo le prove con la benda. Sì, no, ma non in quel senso lì. È tanto esigente Alice o, beh, Alice, o siete voi Alice esigenti? Sa quello che vuole, insomma, per cui... Ma tu gli dici, questa è una canzone, me la canti così? No, questo non esiste. Com'è? Non com'è? Esiste. Fammi... Ci si mette lì, è chiaro che se io porto un pezzo, tipo il pezzo di prima... Sì, no? Certo. Lo porto, dico, magari lo canticchio, no? Sì. E poi, insomma, bisogna che ognuno, come abbiamo detto prima, lo faccia suo. Lo faccia suo. Probabilmente... Quando l'ho cantato io, sono alcune cose non proprio uguali a come ha fatto lei, però se lei lo sente in questo modo qua, va bene così. A me piace a tutti. Matteo, Nick, Claudio, questo giro l'abbiamo fatto parecchie volte prima di trovare, e adesso gira, è bello, a me piace, per cui va bene così, insomma, poi... Cioè deve piacere a tutti o basta che piace alla maggioranza? No, secondo me dopo è chiaro che a uno piace magari di più uno, di più l'altro, insomma, non bisogna stesso, non è che siano lì che deve, cioè all'unanimità deve piacere 10 a tutti, no? Però diciamo che deve almeno uno deve sentirlo su un pezzo come questo, che ritengo che sia un po' di insomma, un po' emozionale, un po' de pazzo, cioè non è bello suonarlo così, insomma, esatto, non il compitino, certo. Non è, insomma, il compitino. E una cosa che volevo chiedere è questa, non so se è collegato a questo discorso, secondo me sì. L'improvvisazione, quando siete sul palco e fate un pezzo simile, l'avete preordinato in una certa maniera, però improvvisate. Cosa succede quando decidete di improvvisare? Nick va avanti, Matteo va avanti, Paolo va avanti, Claudio va avanti, Alice va avanti. Poi la quadratura del cerchio ritorna ad esserci oppure c'è libertà totale? Beh, solitamente comunque ci siamo riservati delle sezioni apposta per improvvisare all'interno dei brani. Cioè ci sono dei brani che hanno una struttura ben definita, magari anche i giri di soli sono sempre quelli. Invece ci sono dei brani dove tutto può succedere, diciamo. Esatto, perché dal vivo porta questo, assolutamente, sul palco porta questo. Assolutamente, poi in un genere come questo che parte dal blues e si mischia altre cose. Certo. Abbiamo detto più volte che il discorso della cover band qua proprio non esiste. Esattamente. Quindi può essere che una sera un brano abbia un feeling diverso rispetto alla sera precedente o quella dopo. Comunque di solito riusciamo sempre a far quadrare il cerchio grazie a una serie di segnali ben collaudati. Ho capito. Praticamente è come giocassimo a briscolo. Esattamente. Ci lanciamo i moti per chiudere il brano. Benissimo. E invece all'incontrario, Alice, com'è lavorare te con loro, insomma? Beh, sicuramente mi piace il fatto che affrontiamo sempre con serietà i nuovi pezzi. Quindi si va avanti fino a quando veramente non li abbiamo sviscerati al massimo, al limite a volte, nel senso che voglio dire, a volte succede anche che ci si trova un po' con idee diverse e questo è bello, a volte anche no, perché magari scatta un po', insomma, scatta un po' l'ira di qualcuno, però sicuramente è un confronto bello e che ci porta, insomma, tante cose nuove. A me, insomma, sicuramente mi ha portato tante cose che prima non avevo mai affrontato, ecco. Ma perché non volevi o perché ti spaventava la cosa? Ma no, ti dirò, perché come avevo accennato prima, insomma, gran parte del repertorio per me è nuova, quindi insomma proprio per questo, insomma, mi trovo ad affrontare cose nuove e ad arricchirmi, insomma, che non è mai male, insomma. No, assolutamente. Molti anni fa c'era una musicista, si chiamava Caterina Caselli, aveva una band di maschi e lei suonava il basso. Mm-hmm. Suonava il basso, era una donna, cioè una donna all'epoca che suonava il basso, era una cosa straordinaria. E aveva anche lei, cioè, andava avanti per la sua strada nonostante fosse una band di maschi e suonava il basso. E si parla del 1965-66, quindi all'epoca in Italia una donna che suonava al basso è una cosa straordinaria. È già difficile anche adesso, un po' meno, chiaramente ci sono tante bravissime musiciste. Sì. Citiamo quella di Velvet Underground, ricordi? Grandissima, straordinaria. Quindi abbiamo rotto le barriere, il discorso. Una musicista, una vocalist, una band di assoluti maschi, non vuol dire assolutamente niente. Da un qualcosa in più, quello volevo dire, volevo arrivare a questo. Beh, insomma, comunque non è la sola la band di Twister che hanno, sono tutti uomini e la cantante. Ma una volta erano pochissime, adesso chiaramente è diverso, ma una volta erano proprio poche, pochissime. Solo che non si capisce mai se all'interno di queste band la voce femminile sia la più importante come persona, insomma, come parte del gruppo, o sia la meno importante. Cioè, dipende dalle band, insomma, dai gruppi, insomma, ma ognuno si fa sempre una certa idea, insomma. Beh, cioè, noi cioè, non, è chiaro che il cantante o la cantante, se poi è cantante e chitarrista ancora meglio. In genere in Italia, no, tu hai gruppi, questo discorso l'abbiamo fatto in un seminario che hanno fatto Faso, il bassista di Aereo Estro Lettese, e il batterista Meia Rovigo. Cioè, in Italia più che in ogni altro paese del mondo il gruppo è sempre il cantante, no? Cioè inquadrano il cantante con il certo. Cantante, ma c'è gente che suona, che ci dà dentro, è il cantante, è sempre il cantante. Al di là di questo, che è un discorso della mentalità, va bene, comunque il cantante indubbiamente ha un ruolo importante, perché è l'interfaccia diretta proprio è lui che instaura tutto sommato il primo approccio, è l'abito, no? Cioè, Detto questo, poi però, insomma, almeno nel gruppo nostro, noi riteniamo, anche per la scelta che abbiamo fatto, che Alice abbia assolutamente un ruolo importantissimo, che è comunque supportato da tutti. Voglio dire, noi lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Certo. Noi come strumentisti, lei come vocalist, e lo scopo è quello di portare avanti il progetto nostro, insomma, ecco. E infatti anche il discorso che si faceva prima, proprio perché noi viviamo per la musica, ma non viviamo di musica. Adesso Nick dirà no, io no, però sono... sì, tu paghi le bollette, esatto. però Nick ha detto, dire, una cosa giusta, noi, prima. Esatto, noi dobbiamo andare lì e divertirsi, ognuno deve prendersi la sua fetta, perché altrimenti non va bene, insomma. Cioè, dobbiamo usare la musica per scaricare le nostre follie, le nostre voglie di espressione, di insomma, voglie, quindi non le fai necessità artistiche. Quindi non fai capricci, Alice, insomma. Ma no, no, ci tengo a dire anche questo, che sia per quanto riguarda il disco che poi per il resto del repertorio che comunque proponiamo dal vivo, i brani sono scelti anche appunto in modo da poter valorizzare tutti gli elementi del gruppo. Quindi ci sarà il brano dove magari spicca di più la voce, un altro dove ci sarà un basso prepotente, e così, insomma, per la batteria, il piano e la chitarra, ecco. In modo che partecipino tutti, insomma. Assolutamente, esatto, sì. Esatto. È giusto che ognuno abbia il suo spazio all'interno del gruppo, perché questo, ripeto, è un gruppo, non è sì, insomma, un nome singolo. Certo, certo. Ma insomma, Alice, tornando al discorso anche della recensione che ti ha fatto Maurizio, eccetera, con cui si parlava della laurea. Sì. Questa laurea che tu stai facendo è, sì, così, è una cosa che così ti ha preso tantissimo, insomma, ti fa capire quanto tu sia dentro questo sound, questo tipo di musica, insomma, il blues. Sì, allora io sto praticamente preparando questa tesi dedicata al blues, in particolare al personaggio che ho citato prima, Paynton Perkins. Questo pianista, insomma, storico. E sì, sicuramente il blues è entrato prepotentemente nella mia vita, tanto che appunto mi ha portato a fare queste scelte, viaggi, studi, approfondimenti vari, insomma. E sono riuscita a portarlo anche appunto nella mia tesi con grande orgoglio. Quando arriverà la tesi? Ma speriamo presto, dai. Sei vicina, insomma. Sì, sì, beh, insomma, sto lavorando solo a questo, quindi, insomma. E a suonare. E a suonare, assolutamente. Ah, sì, certo. Sì, suonando la tesi la fai meglio, praticamente. Assolutamente sì. No, adesso è una battuta, però serve. Nei ritagli di tempo la faccio meglio. Ecco, perfetto. Adesso ce lo ritagli un po' di tempo per noi? E certo. Cosa ci fai sentire? O volete fare qualcosa dal disco? Come allora, volevo farlo dal disco, ma te lo facciamo dal vivo. Come vuoi tu, guarda che io, se vuoi, ti faccio riposare ancora un pochino, se siete stanchi, facciamo qualcosa dal disco. No, te lo facciamo dal vivo, questa è Ball and Chain. Ti ti ha guardato male Paolo, comunque si aspettava che lo facessi dal disco. No, stavo scherzando, era una battuta. Era una battuta la mia. Allora, come al solito si preparano per fare questa nuova canzone dal vivo qui a Blu Radio Veneto, sempre con Agostino, con Maurizio, e ancora per circa 30 minuti scarsi, insomma, e poi ci saluteremo. Intanto però Alice è pronta, siete tutti pronti, quindi li ascoltiamo dal vivo. Mm-hmm. you're gonna miss me. Your boy's all those sweet things of mine. You're gonna miss me, baby. You're gonna miss all those sweet things of mine. You know I mean no harm, honey. Oh yeah, oh yeah. Ball and chain, ball and chain. Just tell me hello. Ci mancano le telecamere per far vedere l'intensità della della bravura e poi anche della Alice Violato che sta cantando questa sera in maniera splendida. Se voi potete vederla è qualcosa di eccezionale, si muove, chiude gli occhi, canta con passione, entra nella canzone come si suol dire, come diceva Paolo prima, la sente sua e la interpreta in una maniera veramente deliziosa. Complimenti Alice perché è una canzone di un pathos unico e l'hai cantata in maniera eccezionale. Grazie Agostino, questi sono i pezzi dove devi esserci dentro, altrimenti insomma si rischia veramente di suonarli a metà, secondo me. La canzone bisogna sentirla, come diceva Paolo, insomma c'è niente da fare, quando tu la senti entri dentro e poi la vivi. Ripetiamo il titolo del pezzo. Questa era Ball and Chain, la trovate all'interno del nostro nuovo disco No Ordinary Blues, che è la canzone che chiude il disco. Assolutamente. Gli autori originali del pezzo? Allora, il brano è stato scritto da Big Mama Thornton, che vogliamo ricordare una delle più grandi blues women degli anni 50. Gli anni 50, sì. Ha inciso tra l'altro per prima il pezzo Hound Dog, che ha poi interpretato un paio d'anni dopo Elvis. Sì, esatto. E quindi sicuramente insomma un pezzo importante per il blues e una donna a cui mi sono ispirata molto musicalmente. E per niente ha finito il disco, cioè l'ultimo pezzo del disco volutamente era quello, sì. Doveva essere quello. E l'intensità, come ha detto giustamente Agostino, non abbiamo le telecamere, l'intensità data da parte tua al pezzo, seguita chiaramente dai musicisti che ti hanno accompagnato, da proprio l'indice, il perché è stato messo come ultimo pezzo, da questa chiave di volta del discorso, secondo me. Ultimo pezzo in studio anche. Anche l'ultimo pezzo in studio, perfetto. Ah, quindi proprio avete seguito anche l'estate. Sì, seguito totalmente il discorso. Ordine cronologico e temporale, quindi quando abbiamo inciso Ball and Chain era tipo quasi mezzanotte. E credo si senta... E avete cominciato a che ora? Molto prima. Dalle 2:30. Dal pomeriggio. Sì, sì, ah, sì. Beh, neanche la mattina. Pensavo... No. Beh, la mattina a cantare è un po' difficile. La mattina siamo andati a messa. Sì. Dov'è che l'avete registrato questo? No Frontiers Recording Studio a Rovigo, da Ugo Bolzoni. Ugo è un tecnico molto bravo che ha lavorato anche tra gli altri con Elio Storietese e Eros Ramazzotti, eccetera. E che ha saputo cogliere soprattutto le nostre esigenze, visto che a noi non serviva qualcuno che ci quantizzasse le batterie, i bassi o sistemasse questo o quello. Serviva qualcuno che cogliesse lo spirito del gruppo e lo portasse bene sul CD, insomma, e ci trovasse i suoni giusti per l'occasione. È totalmente autoprodotto, vero questo? Sì. Quindi è proprio fucina vostra, assolutamente vostra. Tra l'altro volevo anche raccontare un aneddoto. Vai Paolo. Vai. Qua, perché noi ci siamo abbiamo chiesto di andare a suonare al Torrita Blues Festival. Sì. E ci chiamano. Mi invitano. Porca miseria, cosa facciamo adesso? Allora, noi avevamo già in mente di fare il CD, ovviamente. Allora, abbiamo fatto per riuscire ad andare là col CD pronto, perché non aveva senso andare là senza niente. Correva il rischio di essere magari una bella seratona, però finiva lì. Allora, ce la siamo giocata veramente sporca. Abbiamo deciso, i pezzi erano già quelli. Abbiamo fatto la scaletta. Abbiamo fatto la grafica ancora prima, perché al limite uno mai sbaglia. Abbiamo fatto la grafica ancora prima di fatto. Abbiamo praticamente confezionato il box ancora prima di andare in sala. Okay. Ho capito. Siamo andati in sala al sabato, prima abbiamo fatto i suoni, eccetera. Poi alla domenica abbiamo inciso, al lunedì abbiamo mixato un po', sistemato, al martedì abbiamo stampato, abbiamo portato a Bologna, al giovedì siamo andati a prendere i CD e al sabato siamo andati al Torrito. Cioè era una settimana, non dovevamo assolutamente sbagliare nulla, perché altrimenti si sarebbe inceppato tutto. Allora, è bello questo. No, veramente, diciamo, cioè, poi se ci penso, sì, l'abbiamo fatto proprio, cioè non doveva andare in quel modo. Oh ragazzi, proviamo, vediamo. No, deve essere fatto, punto. E doveva essere così. Abbiamo speso, abbiamo venduto la classica pelle dell'orso prima ancora, ma ancora prima di conoscerlo l'orso, di sapere che c'era, perché c'era. Dire. Siete stati coraggiosi e avete vinto la scommessa. Sì, sì, abbiamo vinto la scommessa. No. E chiaramente abbiamo avuto la grande occasione di presentare il nostro disco al Torrito Blues Festival. Torrito Blues Festival, poco, con parecchia gente. Insomma. Arrivare tra virgolette con un background, diciamo, già di dischi, già di lavori fatti, concerti, date, insomma, anche importanti prima del Torrito. Era una cosa buona, però arrivare con un nuovo progetto e presentarlo proprio lì è ancora meglio, sicuramente. Esatto, una cosa effettivamente molto interessante. Che anche sconvolto, senso positivo, chi vi doveva sentire praticamente. Sì, è stata una cosa nuova anche per chi ci segue abitualmente, perché diciamo si è passati da una settimana dallo studio al live proprio questa volta. Certo. Okay. Bene, sono le 23:44. Io direi, se siete d'accordo, di fare una canzone adesso. Poi ritorniamo in studio e facciamo le ultime due chiacchiere e poi ci salutate con l'ultima canzone. Va bene. Visto che mancano pochi minuti a mezzanotte, che abbiamo tempo per ricordare i dati, eccetera, eccetera, certo, per ricordare un po', fare un riassunto, insomma, della vostra storia. E adesso cosa ci fate ascoltare, però? Allora, alzatevi in piedi per ballare, perché pronti? Questa è Shaky Ground. Ah, ok. Questo che cos'è, praticamente? E questo è un super funky. Ah, quindi... Maurizio, questo a te piace, vero? Sì, il funky mi piace, non moltissimo, però mi piace. Però dal vivo mi piace ancora meglio. Vabbè, visto che stasera poi fatto da loro. Sono appunto. Hai visto, c'è perfino caldo la sì, si è anche spogliato. Chiaramente dopo due ore quasi tre ore di musica, vuol dire. Bene, allora siamo qui per ascoltare ancora una canzone dei Twisters con Alice Violato e questo funky. Shake the ground. shake around. Ever since you put me down, guess I'm standing on shake around. Ever since you put me down, pazzesca, Maurizio. Bravissima, bravissima, bravissimi tutti. Io ho notato una cosa, mentre Alice guardava il bassista, Nick era completamente partito nel senso positivo del termine. Era proprio funky al 100%, un funky nero, ma profondamente nero, infatti, potentissimo. Infatti volevamo fargli un giro due e due in più, ma lui si è giocato tutto perché ha chiuso gli occhi, non ha guardato nessuno, allora adesso via, è andato via come un treno. È un brutto vizio suonare con gli occhi chiusi. Andava via con un treno, cari ascoltatori, voi non l'avete potuto vedere, ma lui andava via con un treno, il funky l'aveva proprio immerso nel funky, assolutamente. The Midnight Special, vuole dire. Bene. Grintosissima, sembravi Anastasia in certi momenti. Grazie Agostino. Prego, prego, prego. Io mi tengo sotto fondo questa canzone finché facciamo queste due chiacchiere, perché non è... Eccola là. So mi fa la compagnia. Me la porterò. Adesso ti penserò ogni volta che insomma la faremo ai prossimi concerti. Certo, Agostino. Grazie, sei gentilissima. La prossima volta che vengo a sentirti e vederti, magari me la dedichi anche lì. Ovvio. Ecco, così. Che sfacciato. Allora, sono le 23:50. Abbiamo fatto quasi tre ore, insomma, meno 10 minuti all'inizio, perché insomma abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma insomma poi abbiamo risolto. Però è stata una serata all'insegna della musica vera, come si suol dire, insomma, sembrava di essere nelle langhe, come si può dire, americane, langhe, no? Abbiamo capito. Abbiamo capito, nei paesi sconfinati del blues americano, bellissimo, sono paesaggi poi tra l'altro molto, molto belli. Questa è Blue Radio Veneto, ancora qualche minuto con i Twisters, però prima ricordiamo, insomma, allora, il vostro sito, i vostri contatti, eccetera, eccetera. Allora, il sito è www.thetwisters.it. E dentro al sito ho trovato i link per il MySpace. Poi c'è anche su Facebook The Twisters with Alice Violato. Siccome ho i miei colleghi che titubano quando gli fanno questa domanda, allora io mi inserisco subito. No, stavamo solamente appunto scegliendo chi magari poteva dire perché queste cose. Paolo si è proposto. E si è proposto sempre con molta eleganza. Prendendo il microfono. Non ce la fanno più a parlare? Finisci il discorso, Paolo. No, basta. No, ecco questo, sì. Entrate dentro The Twisters, www.thetwisters.it, lì ci sono i link. Chi vuole acquistare il vostro disco, anche il precedente al limite, vai. Sì, assolutamente. Allora, lo trovate ai nostri concerti, ce lo potete richiedere anche online, ve lo spediamo a casa, e lo potete anche scaricare presso CD Baby scrivendo The Twisters with Alice Violato. Perfetto. I prossimi due concerti. Sì, allora, la prossima settimana, venerdì 11, saremo a Darze Grande, il mio paese natale, al solito posto, e vi aspettiamo. C'è uno stand ovation sicuramente. Sì, mi fa piacere, insomma. Cosa c'è, una manifestazione o proprio solo il vostro concerto? No, ci sarà il nostro concerto, okay. È proprio l'evento principale. Dal vivo, principale. Cioè all'aperto? Sì, all'aperto, perché si inaugura appunto il giardino estivo del locale, quindi ci siamo noi come... Come che sta? Yeah. Ok, e poi il secondo concerto, il secondo appuntamento? Sì, poi comunque siccome abbiamo parecchie date che sono ancora da diciamo da fissare, le stiamo trattando, e vi invito proprio a visionarle nel nostro sito thetwisters.it. Ah, benissimo. Un'ultima cosa, ci dice in anteprima qualche informazione su questo prossimo disco, qualche notizia? di cosa si tratterà? È un concept album? È un disco? Avete qualcosa di posso strapparvi qualche segreto oppure volete mantenerlo? Abbiamo qualche brano pronto, uno l'avete sentito prima. Sì, sì, sì. In realtà stiamo ancora lavorando al tutto dell'album, abbiamo le idee abbastanza chiare di come dovrà suonare, però ovviamente i brani sono work in progress ancora. Comunque non penso, salvo grosse rivelazioni, che si tratterà di un concept album, ecco. Quindi un filo conduttore praticamente. Vedremo, però l'idea è quella, insomma. Abbiamo strappato qualche segreto, qualcosa abbiamo capito. Poi ce lo venite a presentare qui. Beh, senz'altro. Se vi fa piacere, ovviamente. Certo. Anzi, vi strappo l'esclusiva, posso? Sì. Ah, ecco. Sei unica, sei mitica, Alice, grandissima, veramente, grandissima e bellissima persona in tutto e per tutto. Grazie. Allora, parla vicino al microfono, Alice, se no ti metti. Grazie Agostino, sei troppo buono invece. Io ringrazio te e Blu Radio Veneto che ci avete ospitato questa sera, e perché date un'opportunità a noi, ma anche a tanti altri artisti che si vogliono far conoscere, artisti anche della zona di Padova, Rovigo, certo, insomma, e veneti, perché non tutti appunto riservano uno spazio per chi ancora deve farsi conoscere. È il nostro credo, la nostra come dire, politica, quella di fare dallo spazio agli emergenti, perché come dico sempre, lo ripeterò all'infinito, spesso e volentieri i cosiddetti emergenti sono decisamente migliori dei cosiddetti big. Grazie. Mi assumo la responsabilità, ma lo dico perché insomma capita spesso e volentieri di avere degli artisti qui in studio che sono veramente bravissimi e ci si domanda ma perché non hanno lo successo che hanno tanti, insomma, mezzi big o big. Beh, siamo aperti. Il discorso è molto lungo, abbiamo solo 5 minuti, sì, è meglio, esatto, che lo soffriamo per suonare. Sì, esatto. Allora ci salutiamo. Un grazie di cuore della vostra partecipazione, di essere venuti qui, ci ha fatto molto ma molto piacere. Poi è stata questa notizia all'improvviso della impossibilità di Alberto di venire qui in studio, e quindi abbiamo protratto il programma per un'ora e mezza in più, ma ci ha fatto veramente enormemente piacere. Maurizio, noi ci diamo appuntamento a lunedì. Sì, lunedì avremo questa musicista americana, Spring Grove di New York City, una cantautrice che ha fatto, tra l'altro, Alice e anche gli altri ragazzi, ha fatto una versione di Hallelujah di Jeff Buckley o di Leonard Cohen, come vogliamo dire, dal vivo come buskers in giro per l'Italia, una versione molto bella, molto significativa. Speriamo, Agostino, che sia anche qua, ci sia la versione di Jeff Buckley anche qui. Lunedì sera, non si sa. Ma glielo chiediamo. Esattamente, ma in ogni caso ci sarà Spring Grove, certo, by New York City. E magari non sarà la sola donna che sarà presente. Può darsi, non si sa mai. Non si sa mai. Senza fare nomi, vero Alice? Senza fare vedremo. Nomi. Vedremo. Cosa succederà? Sorpresa. Surprise. Va bene, allora quindi appuntamento a lunedì con Spring Grove alle ore 22, mi raccomando, alle ore 22, ruberemo mezz'ora anche allo sport, a Fabrizio. A Fabrizio, sì. Lo sport finisce comunque alle 22, esattamente. Ma insomma l'artista merita ed è giusto dare più spazio, visto che viene poi da New York City, insomma non è facile avere qui una cantante americana dal vivo, poi in acustico, e lei è solamente chitarra e voce, quindi è una cosa fantastica. Poi te la faccio sentire Alice, poi te la faccio sentire anche a voi. Grazie. Bene, ci salutiamo con che cosa? Ci salutiamo con Muddy Water, un altro brano, stato sempre dal nostro nuovo disco No Ordinary Blues. Potete accomodarvi, potete anche partire, che partiamo senza jingle come finale. Maurizio. Grazie Agostino di queste tre ore meravigliose di blues e non soltanto di blues. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, quindi con Spring Grove assolutamente live. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie anche a Fabio Velo che ci ha fatto da fotografo e da compagnia ed un carissimo amico che, come dicevo prima, riavremo qui in studio per il suo nuovo disco che a breve uscirà, quindi anche un'altra esclusiva di Blu Radio Veneto. Un grazie anche a Giulia e a Cli che ti saluta, anche se in treno dice non ti ascolta, però ti fa i complimenti e ti ascolterà comunque, insomma, bella trovarti. Ragazzi, grazie di tutto di cuore e alla prossima. Grazie a Blu Radio Veneto. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Prego. Baby, we've got to have us a little time. I want to back on my face. I'm gonna walk. You say your door goes from hand to hand. But before I see you go from one and two, I'm a rather drink by the water. We're sleeping all alone. very much, boy.